Prima di avviare il prossimo brano, un messaggio dalla Roche-Posay per la salute della tua pelle. Sapevi che l'acido ialuronico è un ingrediente essenziale per mantenerla idratata, elastica e giovane? Prenditi cura della tua pelle con Yalubi5 Siero. Con acido ialuronico puro e vitamina B5. Ripara in un'ora, rimpolpa in 4 ore e riduce le rughe in 4 settimane. Provato dermatologicamente, per tutti i tipi di pelle e tutte le età. Dalla Roche-Posay, marca skincare più consigliata al mondo dai dermatologi. La locanda della tormenta presenta Conan, Chiodi Rossi. Buon ascolto. Uno. Il teschio sulla roccia. La donna a cavallo tirò le redini del suo stanco destriero. L'animale rimase a zampe larghe, la testa ciondoloni, come se trovasse troppo gravoso perfino il peso delle briglie di cuoio rosso dai finimenti d'oro. La donna sfilò uno stivale dalla staffa d'argento e saltò giù dalla sella ricamata d'oro. Legò in fretta le redini a un alberello e si girò con le mani ai fianchi a esaminare la zona. Non era un posto invitante. Alberi giganteschi circondavano uno stagno dove il suo cavallo si era appena abbeverato. I cespugli cresciuti intorno limitavano la visuale che si apriva all'ombra fonda dei rami intrecciati in alto, e la donna ebbe un brivido nelle magnifiche spalle e poi imprecò. Ella era alta, con il seno pieno, le gambe ben piantate e le spalle solide. Tutto il suo corpo emanava una forza non comune, senza nulla togliere alla sua femminilità. Era decisamente una donna, malgrado il contegno e gli abiti. Questi ultimi erano molto succinti, adatti all'ambiente. Invece della gonna portava un paio di pantaloni corti e larghi di seta, che terminavano a un palmo sotto il ginocchio e venivano sorretti da una fascia di seta arrotolata in vita a mo' di cintura. Gli stivaloni di pelle morbida dalla punta luccicante che le arrivavano quasi al ginocchio e una camicia scollata a maniche larghe completavano l'abbigliamento. Su un fianco ben tornito le pendeva una spada a doppio taglio e sull'altro un lungo pugnale. I capelli d'oro ribelli, tagliati all'altezza delle spalle, erano trattenuti da una fascia di seta rossa. Contro lo sfondo cupo di quella foresta primitiva, ella costituiva una nota pittorica inconsapevole, bizzarra e fuori posto. Avrebbe potuto stare in posa contro uno sfondo di nuvole marine, pennoni colorati, gabbiani in volo. C'era il colore del mare in quegli occhi grandi, ed era così che doveva essere, perché quella era Valeria della Confraternita Rossa, le cui imprese venivano celebrate nelle canzoni e nelle ballate in ogni luogo in cui i naviganti facevano festa. La ragazza cercò di penetrare con lo sguardo attraverso il verde tetto di foglie della foresta per vedere il cielo, e invece, soffocando un'imprecazione, vi dovette rinunciare. Lasciando legato il cavallo, camminò velocemente in direzione est, girandosi ogni tanto a guardare verso lo stagno per fissare bene in mente la strada. Il silenzio della foresta la deprimeva. Non si sentiva canto d'uccelli tra i rami alti, né frusciava foglia che indicasse la presenza di qualche bestiola. Aveva percorso intere leghe in un regno di silenzio, rotto soltanto dai rumori della sua fuga. Aveva placato la sete allo stagno, ma adesso sentiva i morsi della fame e cominciò a guardarsi intorno alla ricerca di un po' di frutta che la potesse sostenere, adesso che aveva esaurito la scorta di cibo delle sue bisacce. Dopo un po' si ritrovò davanti a un agglomerato di rocce scure, probabilmente silice, tra le quali si ergeva verso l'alto, affiorando tra gli alberi, una sorta di rupe frastagliata. La sommità era nascosta da un nugolo di foglie. Forse superava la cima degli alberi, e da lì si sarebbe potuto vedere cosa c'era oltre. Se c'era davvero qualcosa in quella foresta apparentemente sconfinata nella quale ella cavalcava da giorni. Uno stretto costone creava una scala naturale che portava sulla liscia parete frontale della rupe. Dopo essere salita per una ventina di metri, Valeria arrivò alla cintura di foglie che circondava la sommità. I tronchi degli alberi non erano fitti, ma i loro rami si stendevano tutti intorno, celando la vetta con il fogliame. Valeria cercò di vedere meglio, arrampicandosi in mezzo a quella massa verde, e finalmente scorse il cielo azzurro. Un secondo dopo si ritrovò alla piena luce del sole e vide stendersi sotto di lei il tetto della foresta. Stava in piedi su una sporgenza dalla roccia all'altezza delle cime degli alberi. Da lì si innalzava uno sperone che costituiva la vetta del picco da lei scalato. Ma in quel momento qualche altra cosa attirò la sua attenzione, perché aveva messo un piede su un oggetto nascosto sotto le foglie morte che ricoprivano la cengia. Le tolse con lo stivale e le apparve il teschio di un uomo. Esaminò con occhio esperto quella bianca reliquia, ma non vide ossa rotte né altri segni di violenza. Quell'uomo doveva essere morto di morte naturale, anche se non riusciva a immaginare perché mai avesse scalato quella roccia. Si arrampicò sullo spuntone e scrutò l'orizzonte. Il tetto della foresta, che dal suo punto di osservazione pareva un tappeto, era impenetrabile, esattamente come appariva dal basso. Valeria non riusciva neanche a vedere lo stagno presso il quale aveva lasciato il suo cavallo. Guardò verso nord, nella direzione dalla quale era venuta. Vide soltanto quell'oceano di verde che si perdeva lontano, con una sottile linea azzurra costituita dalla catena montuosa che aveva attraversato qualche giorno prima, per poi confondersi in quella distesa sterminata di foglie. A ovest e ad est il panorama era sempre lo stesso, anche se la linea azzurra dei monti cominciava a scomparire. Ma quando spostò lo sguardo a sud, rimase col fiato sospeso. A un miglio di distanza la foresta si assottigliava e poi si interrompeva bruscamente. Cedeva il passo a una pianura di cactus e in mezzo a tale pianura sorgevano le mura e le torri di una città. Valeria imprecò, in preda allo sbalordimento. Incredibile! Vedere delle abitazioni umane con le casupole ad alveare dei neri o le abitazioni rupestri della misteriosa razza dalla pelle bronzea che, stando alle leggende, abitava una terra di quella regione inesplorata non l'avrebbe sorpresa. Ma trovare una città con tanto di mura, settimane intere di marcia dal più vicino avamposto della civiltà, era un'esperienza sconvolgente. Staccando le mani, stanche, dal pinnacolo, si lasciò cadere sulla sporgenza, aggrottando la fronte indecisa. Si era spinta lontano. Dal campo dei mercenari vicino alla cittadella di confini di Sukhmet era arrivata alle praterie, dove avventurieri senza scrupoli appartenenti a tutte le razze difendevano la frontiera stigia dai razziatori che arrivavano a ondate rosse da Darfar. La sua era stata una fuga alla cieca in un paese completamente sconosciuto. E adesso era combattuta tra il desiderio di dirigersi immediatamente alla città della pianura e la cautela che le suggeriva l'istinto dicendole di passare alla larga e continuare la sua fuga solitaria. I suoi pensieri vennero interrotti da un frusciare di foglie sotto la rupe. Si girò lesta come un gatto e impugnò la spada. E poi si immobilizzò, fissando a bocca aperta l'uomo che le stava davanti. Egli era quasi un gigante, con i muscoli rigonfi sotto la pelle liscia brunita dal sole. Aveva un abbigliamento simile al suo, a eccezione di un cinturone di pelle che portava al posto della fusciacca e dal quale pendevano una spada a larga lama e un pugnale. «Conan il Cimmero! Che diavolo fai sulla mia strada?» L'uomo aveva un sorriso truce e nei suoi fieri occhi azzurri brillava una luce inequivocabile per qualunque donna, mentre li posava sul suo corpo magnifico, indugiando sul turgore degli splendidi seni che trasparivano dalla camicia leggera e sulla pelle bianca e liscia che si vedeva tra i calzoni e gli stivali. «Non lo sai? Non ho espresso la mia ammirazione per te con sufficiente chiarezza dalla prima volta che ti ho visto?» «Uno stallone non avrebbe potuto essere più chiaro. Ma non avrei mai creduto di incontrarti tanto lontano dalle taverne e dalle cucine di Sukhmet. Davvero mi hai seguita fuori dal campo di Zarallo o ti hanno scacciato come una canaglia?» Conan rise di quell'insolenza e piegò i possenti bicipiti. «Sai, Zarallo non aveva abbastanza sgherri per farmi buttare fuori dal campo. Ovviamente ti ho seguita. Ed è stata una fortuna per te, donna. Quando hai accoltellato quell'ufficiale, ti sei giocata il favore e la protezione di Zarallo e sei diventata una fuorilegge per tutti gli stigiani. Lo so. Ma che altro potevo fare? Lo sai come mi ha provocato? Certo. Se mi fossi trovato lì, l'avrei accoltellato io stesso. Ma se una donna vuole vivere in un accampamento di soli uomini, deve aspettarsi certe cose. Perché gli uomini non mi lasciano vivere come un uomo? È ovvio. Ma sei stata saggia a scappare. Gli stigiani ti avrebbero fatto la pelle. Il fratello di quell'ufficiale ti ha seguita e più in fretta di quanto tu pensi, stanne certa. Non era molto lontano da te quando l'ho incontrato. Il suo cavallo era più veloce del tuo. Ti avrebbe presa e sgozzata entro poche miglia. E allora? Allora cosa? Cosa ne è stato dello stigiano? Tu cosa credi? L'ho ucciso, ovviamente, e ho lasciato la sua carcassa in pasto agli avvoltoi. Ma questo mi ha fatto ritardare e ho quasi perso le tue tracce quando hai attraversato le rocce sotto le montagne. Altrimenti ti avrei raggiunta molto tempo prima. E adesso credi di potermi trascinare? Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Pronto, ufficio soluzioni esagerate. Salve, sono Luca Soldoni, consulente finanziario. Chiamo perché devo fare i conti con le tasse. Il carico fiscale è esagerato. Alleggeriscilo con i buoni pasto ticket Restaurant Edred. Sono deducibili anche per una partita IVA come te. E scarichi tutto con una fattura unica. E poi sono spendibili in tutta Italia anche per la spesa e il food delivery. Vai su ticketrestaurant.it. Esageratamente Edred. Di nuovo al campo di Zarallo. Non fare la stupida. Avanti, ragazza, non essere così velenosa. Non sono come il bell'imbusto che hai accoltellato, e tu lo sai. Sei uno straccione vagabondo. E tu come ti definisci? Non hai abbastanza denaro per comprarti un fondo nuovo per i calzoni. Il tuo disprezzo non mi inganna. Lo sai che ho comandato navi più grandi e più uomini di quanti tu ne abbia comandati in vita tua. Quanto al fatto che mi ritrovo squattrinato, quale vagabondo non lo è, e per gran parte del suo tempo. Ho sperperato tanto oro nei porti di mare di tutto il mondo da poterci riempire un galeone. E sai bene anche questo. Dove sono adesso le belle navi e gli uomini coraggiosi che comandavi? Ma in fondo al mare, principalmente. Gli zingariani hanno affondato la mia ultima nave davanti alla costa scemita. Per questo mi sono unito ai liberi compagni di Zarallo. Ma ho capito di avere fatto un errore quando abbiamo marciato sulla frontiera di Darfar. La paga era misera e il vino era amaro e le donne nere a me non piacciono. E le sole che si vedono al nostro campo di Sukhmet avevano l'anello al naso e anche i denti rotti. Bah! E tu invece perché ti sei unita a Zarallo? Sukhmet è molto lontana dal mare. Orso Rosso voleva fare di me la sua donna. Una notte mi sono tuffata in mare e ho nuotato fino a riva. Una notte mi sono tuffata in mare e ho nuotato fino a riva, mentre eravamo ancorati al largo della costa Cuscita, davanti a Zabela. Lì un mercante scemita mi ha detto che Zarallo aveva condotto a sud i liberi compagni per difendere la frontiera di Darfar. Non mi offrivano prospettive migliori. Così mi sono unita a una carovana che andava ad est e alla fine sono arrivata a Sukhmet. È stata una pazzia spingersi così a sud. Ma al tempo stesso è stato saggio, perché le pattuglie di Zarallo non penserebbero mai di cercarti in questa direzione. Soltanto il fratello dell'uomo che hai ucciso ha trovato per caso le tue tracce. E adesso cosa intendi fare? Prendere a ovest. Sono stato a sud di questa terra, ma mai ad est. Diversi giorni di cavallo verso ovest ci porteranno nelle aperte savane, dove le tribù indigene portano a pascolare le loro mandrie. Ho degli amici tra loro. Arriveremo alla costa e troveremo una nave. Io ormai sono stanco della giungla. E allora vattene per la tua strada. Io ho altri piani. Non fare la stupida. Non puoi continuare a vagare per la foresta. Invece sì, se voglio. Ma che cosa vorresti fare? Questi non sono affari tuoi. Certo che lo sono. Credi che ti abbia seguita fin qui per far girare il cavallo e andarmene a mani vuote? Sii ragionevole, donna, non intendo farti del male. Conan fece un passo in avanti e Valeria scattò all'indietro sfoderando la spada. Sta lontano, cane di un barbaro, o ti infilzerò come un maiale arrosto. Conan si arrestò riluttante e le chiese: Vuoi forse che ti tolga quel giocattolo e ti dia una sculacciata? Parole, soltanto parole. Lo sbeffeggiò lei con due occhi scintillanti come il sole sull'acqua azzurra. Conan sapeva che era vero. Nessun uomo poteva disarmare Valeria della confraternita a mani nude. Si ritrovò in un groviglio di emozioni contrastanti. Era arrabbiato, ma al tempo stesso divertito e pieno d'ammirazione per tanto spirito. Bruciava dalla voglia di afferrare quel corpo splendido e stritolarlo tra le sue braccia di ferro. Eppure non desiderava assolutamente far del male alla ragazza. Era combattuto tra il desiderio di sculacciarla sonoramente e il desiderio di accarezzarla. Sapeva che se si fosse avvicinato, la spada di lei gli avrebbe trapassato il cuore. Aveva visto Valeria uccidere troppi uomini nelle faide di frontiera e nelle risse d'osteria per illudersi in proposito. Sapeva che era svelta e feroce come una tigre. Poteva sfoderare lo spadone e disarmarla, toglierle la lama dalle mani. Ma il solo pensiero di alzare la spada contro una donna, anche senza l'intenzione di ferirla, gli ripugnava. «E la tua anima bruci, donna! Intendo toglierti là!» Avanzò verso di lei, perdendo completamente la testa, e Valeria si preparò un affondo mortale. Poi ci fu una sorprendente interruzione di quella scena, al tempo stesso comica e pericolosa. Valeria gridò. Ma entrambi sussultarono violentemente e Conan si girò come un gatto, facendo guizzare lo spadone tra le mani. Dal fondo della foresta giunsero nitriti di dolore strazianti, quelli di cavalli terrorizzati e agonizzanti. Insieme alle loro grida si udì anche uno schianto d'ossa. I leoni hanno assalito i cavalli! Leoni un corno! Hai forse sentito ruggire un leone? Beh, nemmeno io! Ascolta quel rumore d'ossa spezzate! Neppure un leone farebbe tanto rumore nell'uccidere un cavallo. Corse giù per la scala naturale e Valeria lo seguì, dimentichi entrambi del loro alterco personale, nello spirito dell'avventura che li univa dinanzi al comune pericolo. I nitriti erano cessati quando scesero giù e si fecero largo tra il fogliame che ricopriva la roccia. Ho trovato il tuo cavallo legato presso quello stagno laggiù. Ho legato il mio accanto al tuo e ho seguito le orme dei tuoi stivali. Adesso in guardia. Erano usciti dal fogliame. Sopra di loro il tetto verde spiegava il suo scuro baldacchino. Sotto di loro la luce del sole filtrava appena, creando un crepuscolo verdegiada. I tronchi giganteschi degli alberi a meno di 100 metri avevano un aspetto cupo e spettrale. I cavalli dovrebbero trovarsi oltre quel boschetto laggiù, sussurrò Conan. E la voce avrebbe potuto essere il vento che stormiva fra le fronde. Ascolta. Valeria aveva già sentito e le si gelò il sangue. Inconsciamente posò la mano nivea sul braccio abbronzato e muscoloso del compagno. Dai cespugli si udiva un rosicchiare d'ossa, un suono di carne dilaniata, un digrignare di zanne e uno slappare di lingue bavose impegnate in un macabro festino. I leoni non farebbero quel rumore. Qualcuno sta divorando i nostri cavalli, ma non è un leone, per Crom! Il rumore cessò improvvisamente e Conan imprecò sottovoce. Di colpo si era alzato il vento, portando il loro odore direttamente verso il punto in cui era nascosto l'ignoto aggressore. Eccolo! Mormorò Conan sollevando a metà la spada. Nei cespugli ci fu un'agitazione violenta e Valeria strinse il braccio di Conan. Pur non conoscendo le leggende sulla giungla, sapeva che nessun animale poteva scuotere le piante a quel modo. Deve essere grosso come un elefante! Che diavolo! E poi Conan si alzò improvvisamente. Dai cespugli spuntò una testa da incubo e follia. Le mascelle digrignanti erano munite di file di zanne gialle e unte di bava. Sopra la bocca spalancata spuntava un muso da rettile. Gli enormi occhi, simili a quelli di un pitone, ma ingigantiti mille volte, scrutavano fissamente le due creature umane, le quali, come paralizzate, si tenevano strette alla roccia sovrastante. Colava sangue dalle labbra cascanti e scagliose e dall'interno dell'immensa bocca. La testa protrusa, più grossa di quella di un coccodrillo, sporgeva da un lungo collo squamoso, sul quale spuntavano fitti aculei. Poi compariva un torso titanico, gigantesco, cilindrico, posato su due zampe incredibilmente corte, sotto le quali la bestia schiacciava rovi arboscelli. La pancia biancastra quasi sfiorava il terreno, mentre la schiena arrivava più in alto di Conan, se questo si fosse sollevato in punta di piedi. Una lunga coda uncinata, simile a quella di un enorme scorpione, si trascinava per terra. «Torna sopra la roccia, svelta! Non credo che riesca a scalarla, ma può sollevarsi sulle zampe e raggiungerci!» Schiantando e spezzando roveti e arboscelli, il mostro si lanciò tra cespugli, mentre i due salivano in cima alla rupe con la leggerezza di due foglie sollevate dal vento. Mentre si girava a lanciare uno sguardo tra il fogliame, Valeria vide il colosso sollevarsi spaventosamente sulle massicce zampe posteriori, esattamente come Conan aveva previsto. Quella vista la gettò nel panico. Mentre si sollevava, la bestia appariva più gigantesca che mai e la sua testa proboscidata torreggiava sopra gli alberi. Allora Conan prese la donna per il polso con una stretta di ferro e la trascinò precipitosamente tra le foglie e poi di nuovo sotto il cielo aperto, proprio mentre il mostro piombava con le zampe anteriori sulla loro roccia, facendola tremare sotto il colpo. Alle loro spalle l'immensa testa si intrufolò tra le frasche e i due fuggitivi guardarono giù per un orribile istante, il muso da incubo incorniciato dalle foglie verdi, gli occhi fiammeggianti e le fauci spalancate. Poi le zanne smisurate si serrarono inutilmente e alla fine la testa si ritrasse e scomparve come se fosse sprofondata in uno stagno. Sbirciando tra i rami spezzati che sfioravano la roccia, i due videro che il mostro si era accovacciato ai piedi della rupe e che li fissava dal basso con due occhi magnetici. Valeria rabbrividì. «Per quanto tempo credi che resterà così?» Conan dette un calcio al teschio posato sopra la coltre di foglie. «Questo qui deve essersi arrampicato quassù per sfuggirgli o per sfuggire a un altro mostro simile e alla fine deve essere morto di fame. Non ci sono ossa rotte. Quell'animale deve essere uno di quei draghi di cui parlano le leggende dei neri. Se è così, non ci lascerà in pace finché non saremo morti». Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Pronto, ufficio soluzioni esagerate. Salve, sono Luca Soldoni, consulente finanziario. Chiamo perché devo fare i conti con le tasse. Il carico fiscale è esagerato. Alleggeriscilo con i buoni fasto ticket Restaurant Edred. Sono deducibili anche per una partita IVA come te. E scarichi tutto con una fattura unica. E poi sono spendibili in tutta Italia anche per la spesa e il food delivery. Vai su ticketrestaurant.it. Esageratamente Edred. Valeria lo guardò ammutolita, senza provare più alcun risentimento. Lottava contro il panico che minacciava di travolgerla. Aveva dato prova del proprio coraggio indomito in mille battaglie, combattute sia in terra che in mare, sopra i ponti delle navi ricoperti da sangue e negli assalti alle mura delle città, sulle spiagge sabbiose dove i disperati della Confraternita Rossa bagnavano i coltelli col loro stesso sangue, battendosi a morte per avere il comando. Un coltellaccio da marinaio non le faceva nessuna paura nel mezzo della battaglia. Ma starsene seduta impotente su una nuda roccia, aspettando di morire di fame, assediata da un mostruoso superstite di un'epoca preistorica, questo pensiero la faceva impazzire di panico. Dovrà pure andarsene per bere e mangiare. Ma non dovrà andare molto lontano per farlo. Si è appena saziato di carne di cavallo e da bravo serpente può resistere molto tempo senza bere e senza mangiare. Purtroppo però temo che non dorma dopo lo spuntino come farebbe un vero serpente. Comunque non può arrampicarsi fin quassù. Conan rimaneva imperturbabile. Era un barbaro e la pazienza infinita delle creature selvagge faceva parte della sua natura, non meno delle passioni e delle ire. Riusciva a sopportare una situazione come quella con una freddezza impensabile in una persona civile. «Non potremmo passare tra gli alberi aggrappandoci ai loro rami come scimmie!» Conan scosse la testa. «Ci ho già pensato, ma le liane che arrivano sulla nostra rupe sono troppo leggere. Si spezzerebbero sotto il nostro peso. E poi credo proprio che quel demonio potrebbe sradicare tutti gli alberi dei paraggi!» «E allora resteremo qui seduti sui nostri posteriori ad aspettare di morire di fame! Io non lo farò! Scenderò giù e gli taglierò quella maledetta testa!» Conan si era seduto su uno spuntone sotto la cima della rupe. Guardò con ammirazione quegli occhi ardenti e quel corpo fremente di collera. Tuttavia, intuendo che la ragazza era sull'orlo di una crisi isterica, non le espresse la propria ammirazione. «Siediti! Stai tranquilla e calmati! Spezzeresti soltanto la lama contro quelle scaglie. Ti inghiottirebbe in un solo boccone, oppure ti schiaccerebbe come un uomo. Con quella sua coda uncinata, poi. In qualche modo ne usciremo, ma non sarà certo facendoci divorare e inghiottire da lui.» Valeria non rispose, né cercò di allontanare il braccio che la stringeva alla vita. Aveva paura, ed era una nuova sensazione per la Valeria della Confraternita Rossa. Così rimase seduta sulle ginocchia del suo compagno o del suo catturatore con una docilità che avrebbe sbalordito Zarallo, l'uomo che la temeva come se fosse un diavolo in gonnella uscito dal serraglio dell'inferno. Conan giocherellò pigramente con i suoi riccioli biondi, preso unicamente dalla conquista. Nemmeno lo scheletro ai suoi piedi o il mostro che gli aspettava sotto distraevano i suoi pensieri o attenuavano l'interesse che nutriva in quel momento. Gli occhi inquieti della ragazza, scrutando tra il fogliame, scoprirono delle chiazze di colore. Era frutta. Delle grosse sfere rosso scuro attaccate ai rami di un albero dalle foglie larghe e particolarmente verdi. Si rese conto di avere sia fame che sete, sebbene la sete non l'avesse assalita finché non si era resa conto che non poteva scendere dalla roccia a cercare cibo e acqua. Conan guardò verso il punto indicatogli. «Ragazza, se mangiamo quei frutti non sarà più necessario farsi mordere da quel drago. I neri di Kush le chiamano le mele di Derketa. Derketa è la regina dei morti. Prova a bere un po' del loro succo, oppure fattelo cadere sulla pelle e sarai morta prima di ruzzolare ai piedi di questa rupe.» Valeria sprofondò in un cupo silenzio. Sembrava proprio che non ci fosse via di uscita da quella situazione. E riflette questo con uno sgomento incredibile. Non riusciva a vedere come poteva fuggire. Eppure Conan sembrava preso unicamente dalla sua vita snella e dai suoi riccioli. Se stava pensando a un piano di fuga, di sicuro non lo stava dando a vedere. «Se mi togli le mani di dosso e sali su quello spuntone, vedrai qualcosa che ti stupirà.» Conan le lanciò uno sguardo incuriosito. Poi obbedì, scrollando le spalle massicce. Arrampicandosi sullo spuntone, scrutò il tetto della foresta. Rimase in silenzio per un lungo momento, immobile come una statua di bronzo collocata sulla roccia. «È una città con le mura. Era lì che stavi andando quando volevi mandarmi da solo sulla costa?» «L'ho vista prima che tu arrivassi. Ne ignoravo completamente l'esistenza quando ho lasciato Sukhmet.» «Chi avrebbe mai pensato di trovare una città da queste parti? Non credo che gli stigiani si siano mai spinti fin qui. Ritieni che i neri saprebbero costruire una città come quella? Non ho visto bestiame sulla prateria, né segni di agricoltura né di gente.» «Come potresti vedere tutto questo da una distanza simile?» Conan scrollò le spalle e scese giù dalla cengia. «Comunque in questo momento gli abitanti di quella città non possono aiutarci. E forse non lo farebbero neanche se potessero. La gente dei paesi neri solitamente è ostile con gli stranieri. Probabilmente ci infilzerebbero con le loro lance.» All'improvviso Conan si immobilizzò e si interruppe, come se avesse scordato che cosa stava dicendo, e guardò accigliato le mele rosse che luccicavano tra le foglie. «Lance! Che idiota sono stato a non pensarci prima! Ecco la dimostrazione di cosa può fare una bella donna al cervello di un uomo.» «Di che vai parlando?» Senza risponderle, Conan si avvicinò alle fronde e guardò giù. Il mostro era sempre accovacciato lì sotto e sorvegliava la roccia con la spaventosa pazienza dei rettili. Probabilmente era così che uno della sua razza aveva guardato i loro antenati trogloditi all'alba dei tempi, rifugiatisi sopra una rupe come quella. Conan lo maledisse con freddezza e cominciò a tagliare i rami, arrivando a prenderli fin dove poteva. Il movimento delle fronde allarmò il mostro, che si rialzò e cominciò a dimenare furiosamente la sua orribile coda, sradicando gli arbusti come fossero fuscelli. Conan lo controllò con la coda dell'occhio, e quando Valeria credette che il drago stesse per avventarsi nuovamente contro la roccia, il cimmero indietreggiò e tornò sulla vetta con i rami che aveva tagliato. Ce n'erano tre della lunghezza di circa 2 metri, affusolati come aste, ma non più larghi del suo pollice. Doveva tagliare anche dei viticci robusti. «Questi rami sono troppo leggeri per usarli come lance e i rampicanti troppo sottili. Non reggerebbero, ma l'unione fa la forza. Ce lo dicevano sempre i rinnegati di Aquilonia, noi cimmeri, quando sono arrivati sulle montagne in cerca di uomini per attaccare il loro paese. Ma noi combattiamo sempre in clan e in tribù. E questo che diavolo c'entra con quelle aste? Aspetta e vedrai!» Dopo aver unito i rami saldamente, Conan infilò un'estremità l'elsa del pugnale. Poi con le liane li legò insieme e quando ebbe completato l'opera ottenne una lancia abbastanza robusta con una punta affilata e lunga 2 metri. A cosa ti servirà? Mi hai detto che una lama non riesce a penetrare le sue scaglie. Avvicinandosi alle fronde, Conan allungò la lancia e vi infilò una mela di darchera, spostandosi di lato per evitare le gocce rosse che colavano dal frutto. Poi sfilò la lama e le mostrò la macchia rosso scuro rimasta sull'acciaio azzurro. «Non so se funzionerà o no, c'è abbastanza veleno da uccidere un elefante, ma... beh, vedremo!» Quando il barbaro si lasciò cadere sui rami, Valeria lo seguì e rimase lì vicino, tenendo cautamente a distanza la picca avvelenata. E Conan infilò la testa tra le foglie e chiamò il mostro. «Che cosa stai aspettando laggiù, figlio di genitori ignoti? Infila di nuovo il tuo brutto testone qui dentro, collo lungo, o preferisci che venga giù a staccarti quella proboscide illegittima?» Il barbaro aveva in serbo molte altre offese come quella, alcune di un'eloquenza che lasciò Valeria a bocca aperta, malgrado l'educazione profana ricevuta fra i marinai. E alla fine tutte quelle provocazioni ebbero effetto sul mostro. Come l'abbaiare continuo di un cane irrita e infastidisce gli animali di natura più silenziosa, la voce stentorea dell'uomo a certe bestie incute paura e collera irrefrenabile ad altri. All'improvviso, con una sveltezza stupefacente, il mastodontico mostro si sollevò sulle zampe posteriori e allungò il tronco e il collo nello sforzo furioso di raggiungere quel pigmeo che disturbava con la sua voce squillante il silenzio primordiale del suo antico regno. Conan, però, aveva calcolato le distanze con precisione e a 1,5 metri da lui sentì che il testone della bestia urtava vanamente contro le foglie. E quando aprì la bocca raccapricciante, che sembrava quella di un grosso serpente, Conan infisse la sua lancia nell'angolo rosso della mascella. Ve la conficcò con tutta la forza di entrambe le braccia, infilando fino all'elsa la lunga lama del pugnale nella carne, nei tendini e nelle ossa della bestia. Le mascelle del mostro si strinsero convulsamente, spezzando la tripa lancia e facendo quasi cadere Conan dal suo riparo. E il cimmero sarebbe caduto veramente se la ragazza, con uno sforzo disperato, non l'avesse trattenuto per il cinturone. Conan si aggrappò a uno spuntone di roccia e le sorrise con un ghigno per ringraziarla. Giù a terra il bestione spalancava le fauci come un cane e con il pepe agli occhi. Scuoteva la testa giù da una parte e dall'altra e apriva continuamente la bocca fino al massimo. Poi posò una grossa zampa anteriore sul moncone dell'asta e riuscì a tirar fuori la lama. Allora sollevò la testa, con le fauci spalancate che sputavano sangue, e guardò in alto verso la roccia con una collera così consapevole e così intensa che Valeria tremò e ritirò la spada. Le scaglie che ricoprivano il tronco e i fianchi, da color ruggine che erano, divennero di un rosso cupo. Poi, e questa fu la cosa più orribile, il mostro ruppe il silenzio e i suoni che uscirono dalle sue zanne gocciolanti di sangue non parevano venire da una creatura terrena. Emettendo dei ruggiti gutturali e striduli, il drago si lanciò contro la roccaforte dei nemici. La sua testa si allungò ripetutamente verso l'alto, schiacciando i rami degli alberi, ma colpì soltanto l'aria. Allora si buttò di peso con la sua massa poderosa contro la roccia, facendola tremare da cima a fondo. Quindi, alzandosi sulle zampe anteriori come un uomo, cercò... Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet. E scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo Store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Pronto, ufficio soluzioni esagerate. Buongiorno, sono Marco Quercia, falegname. Vi contatto perché le tasse mi martellano. Il carico fiscale è esagerato. Alleggeriscilo con i buoni pasto ticket restaurant Edred, 100% deducibili per aziende e semplici da attivare. E poi li usi in tutta Italia, anche per la spesa e il food delivery. Vai su ticketrestaurant.it. Esageratamente, Edred. Godi sradicarla dalla base come se fosse un albero. Lo spettacolo di quella furia primordiale agghiacciò il sangue a Valeria, mentre Conan era troppo vicino all'elemento primitivo per provare qualcosa di più di un vivo interesse. Per il barbaro non esisteva differenza tra l'uomo e l'animale, come esisteva invece nella concezione di Valeria. Il mostro sotto di loro per Conan era semplicemente una forma di vita diversa da lui, principalmente nell'aspetto fisico. Egli gli attribuiva caratteristiche umane e vedeva nella sua rabbia le sue stesse manifestazioni di collera e nei suoi ruggiti e ululati una risposta alle offese che lui gli aveva fatto con le proprie provocazioni. Sentendosi simile a tutte le creature selvagge, perfino ai draghi, era impossibile per lui provare l'orrore che assaliva Valeria alla vista della ferocia del bruto. E così Conan rimase tranquillamente seduto a guardare il bestione, indicando mano a mano tutti i cambiamenti che avvenivano nella sua voce e nei suoi gesti. Il veleno comincia a fare effetto! Non ci credo! A Valeria pareva assurdo ipotizzare che qualche cosa, anche letale, potesse fare effetto su quella montagna di muscoli e di furia. C'è dolore nella sua voce! Prima era soltanto arrabbiato per via della ferita alla bocca. Adesso invece sente il morso del veleno. Guarda un po', sta già vacillando. Non ci vedrà più nel giro di pochi minuti. Che ti dicevo? Improvvisamente, infatti, il drago si girò e ricadde con uno schianto sui cespugli. Se ne sta andando. Si sta dirigendo allo stagno. Il veleno gli mette sete. Andiamo! Tra pochi minuti sarà cieco, ma sarà sempre in grado di ritrovare la strada avvalendosi del suo olfatto. E se sentirà ancora il nostro odore, resterà qui sotto finché non morirà. E alle sue urla potrebbero arrivarne altri. Muoviamoci! Scendiamo giù! Certo! Ci dirigeremo verso la città. Forse ci taglieranno la testa, ma è la nostra unica possibilità. Potremmo imbatterci in centinaia di altri draghi lungo la strada, ma restare qui significa morte certa! Se aspettiamo che questo muoia, potremo essere costretti ad affrontarne una dozzina. Seguimi, donna, di corsa! Conan scese giù lesto come una scimmia, fermandosi soltanto per aiutare la compagna, che non era agile come lui, la quale, prima di vedere come si arrampicava il cimmero, aveva creduto di essere pari a qualunque uomo nell'attaccare una nave o nello scalare una parete liscia. Si calarono tra le fronde buie e scivolarono a terra silenziosamente, anche se Valeria era certa che il battito del suo cuore doveva sentirsi da molto lontano. Un rumore di lappate e di gorgogliamenti dietro i fitti cespugli indicava che il mostro si stava abbeverando allo stagno. Non appena si sarà riempito la pancia, tornerà indietro. Potrebbero volerci delle ore prima che il veleno lo uccida, se davvero ci riuscirà. Oltre la foresta, il sole stava calando all'orizzonte. La giungla era un luogo buio e nebbioso, pieno di ombre nere e voragini scure. Conan afferrò Valeria per un polso e la fece girare intorno alla roccia. Faceva meno rumore del vento che passa tra i tronchi degli alberi, mentre Valeria aveva la sensazione che i suoi morbidi stivali tradissero la loro fuga, comunicandola a tutta la foresta. Non credo che possa seguire una pista, ma se il vento si alza e gli porta il nostro odore, potrebbe ritrovarci. Per Mitra, allora speriamo che il vento non si alzi. Aveva il volto pallido alla luce del crepuscolo. Nella mano libera impugnava la spada, ma il contatto dell'Elsa zigrinata le dava soltanto una sensazione di impotenza. Erano ancora parecchia distanza dal limitare della foresta, quando sentirono uno schiocco e uno schianto alle loro spalle. Valeria si mosse un labbro per non gridare. Ci segue. Conan scosse la testa. Non ha più sentito il nostro odore sotto la roccia e sta brancolando alla cieca per la foresta per ritrovare la nostra scia. Andiamo adesso, o la città o niente. Il mostro potrebbe buttare giù qualunque albero se ci arrampicassimo. Se non si alza il vento. E andarono avanti cautamente finché gli alberi cominciarono a diradarsi. Alle loro spalle la foresta era un mare impenetrabile di ombre. Gli schianti minacciosi seguitavano a schioccare dietro di loro, mentre il drago continuava alla cieca la sua caccia. C'è la pianura laggiù. Ancora un po' e... Per Crom! Per Mitra! Da sud si era alzato il vento. Soffiava direttamente verso di loro dal fondo della foresta. In quell'istante un orrendo boato scosse i boschi. Gli schianti occasionali dei cespugli adesso divennero continui. Il drago stava arrivando come un ciclone nel punto in cui aveva sentito l'odore dei suoi nemici. «Corri! Non possiamo fare altro!» sbraitò Conan con gli occhi scintillanti come quelli di un lupo preso in trappola. Gli stivali da marinaio non sono fatti per correre e la vita di un pirata non richiede l'addestramento alla corsa. Dopo qualche centinaio di metri, Valeria era già senza fiato e aveva rallentato l'andatura. Alle loro spalle il rumore di rami spezzati venne sostituito da un boato. Il mostro usciva dai cespugli in campo aperto. Il braccio di ferro di Conan, stretto intorno alla vita della donna, quasi la sollevava. I piedi di lei sfioravano appena il terreno, mentre lui la trascinava a una velocità che da sola non sarebbe mai riuscita a raggiungere. Se riuscivano a tenersi alla larga della bestia ancora per un po', forse il vento traditore sarebbe mutato. Ma invece il vento teneva e una rapida occhiata indietro rivelò a Conan che il mostro li aveva quasi raggiunti, arrivando come una galea da guerra sospinta all'uragano. Il cimmero allontanò Valeria con una forza che la fece capitombolare a diversi metri di distanza ai piedi dell'albero più vicino. Quindi si parò davanti al titano che veniva alla carica. Convinto di essere prossimo alla morte, Conan agì d'istinto e si lanciò con tutto il corpo contro il muso della bestia. Fece un balzo, colpendo con la spada come un gatto selvatico, e sentì che la lama affondava nelle scaglie che proteggevano la possente proboscide. Poi una botta terribile lo fece rotolare a terra per quasi 200 metri, senza fiato e più morto che vivo. Come il cimmero, più morto che vivo, fosse riuscito a rimettersi in piedi, non lo seppe mai neanche lui. L'unico pensiero che aveva in testa era la donna che giaceva stordita e impotente sulla strada di quel diavolo. E prima che il fiato gli tornasse in gola, era già accanto a lei, a spada tratta. Valeria era rimasta a terra dove era stata scagliata, ma stava cercando di rimettersi su. Non era stata nemmeno sfiorata dalla bestia, mentre invece Conan era stato colpito da una zampata anteriore. Il mostro, accecato, dimenticando le vittime che stava inseguendo, nell'agonia della morte, si lanciò in una corsa folle a capofitto, finché si schiantò con la testa contro un albero gigantesco che si trovava sulla sua strada. L'impatto divelse l'albero dalle radici e probabilmente fracassò il cranio del mostro. Albero e bestia caddero insieme e i due giovani, storditi, videro le fronde e i rami scossi dalle convulsioni dell'animale che li schiacciava. E poi fu silenzio. Conan aiutò Valeria a rimettersi in piedi e insieme si allontanarono velocemente. Qualche minuto dopo emersero nel crepuscolo che regnava sulla pianura brulla. Il barbaro si fermò un attimo a guardare la cintura d'ebano alle loro spalle. Non si muoveva una foglia, non cantava un uccello. La foresta era silenziosa come doveva essere prima della creazione dell'uomo. «Andiamo! Dobbiamo muoverci! Se altri draghi dovessero uscire dai boschi per inseguirci!» Non era necessario finire la frase. La città sembrava molto distante vista dalla pianura. il cuore di Valeria batteva quasi a levarle il respiro. Ad ogni passo si aspettava di sentire schioccare i rami e vedere un altro incubo colossale pronto a caricarli. Nulla però disturbava il silenzio dei cespugli. Quando ebbero messo il primo miglio di distanza tra loro e i boschi, Valeria tornò a respirare più tranquillamente e cominciò a ritrovare anche un po' di fiducia in se stessa. Il sole era tramontato e sulla pianura si stavano infittendo le tenebre, rischiarate leggermente dalle stelle, la cui luce conferiva ai cactus forme fantasmagoriche. «Niente bestiame, niente terre coltivate! E come vive questa gente?» «Forse avranno rinchiuso il bestiame negli ovili per la notte, e i campi e i pascoli si troveranno dall'altra parte della città.» «Forse, ma non ne ho visto neanche l'ombra dall'alto della roccia.» Dietro la città spuntò la luna, illuminando le mura e le torri col suo chiarore giallastro. Valeria rabbrividì. Vista sotto la luna, quella strana città aveva un aspetto sinistro. Forse Conan ebbe la medesima sensazione, perché si fermò, si guardò intorno e mugugnò. «Ci fermiamo qui. Inutile arrivare alle loro porte di notte. Probabilmente non ci farebbero entrare. E poi ci serve un po' di riposo e non sappiamo come ci riceveranno. Qualche ora di sonno ci rimetterà in forma per domani, in caso dovessimo combattere o scappare.» Conan fece strada fino ad un anfratto contornato di cactus che crescevano in cerchio, un fenomeno comune nel deserto meridionale. Con la spada si creò un varco e fece cenno a Valeria di entrarci. «Almeno qui saremo al sicuro dai serpenti.» Valeria guardò con apprensione la linea che delineava l'inizio della foresta a circa 6 miglia di distanza. «E se un drago uscisse dai boschi?» «Faremo la guardia», le rispose il cimmero, anche se non le disse che cosa avrebbero fatto in quel caso. Stava guardando la città lontana molte miglia. Non brillava neanche una luce sulle guglie e sulla torre. Come una grande massa nera piena di misteri, si ergeva cripticamente sotto la luce della luna. «Sdraiati e riposati. Farò io il primo turno di guardia.» Lei esitò, guardandolo indecisa, ma Conan si sedette a gambe incrociate nella minuscola radura, con la faccia rivolta alla pianura e la spada posata sulle ginocchia, dandole le spalle. Senza dire altro, Valeria si sdraiò sulla sabbia dentro al cerchio di cactus. L'ultima immagine che Valeria vide prima di sprofondare nel sonno fu la sua figura muscolosa, immobile come una statua di bronzo, profilata sotto le stelle che pendevano basse. Pronto, ufficio soluzioni esagerate. Buongiorno, sono Marco Quercia, falegname. Vi contatto perché le tasse mi martellano. Il carico fiscale è esagerato. Alleggeriscilo con i buoni pasto ticket Restaurant Edred, 100% deducibili per aziende e semplici da attivare. E poi li usi in tutta Italia, anche per la spesa e il food delivery. Vai su ticketrestaurant.it. Esageratamente, Edred. Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet. E scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo Store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. 2. Per la fiamma delle gemme di fuoco. Valeria si svegliò di soprassalto, rendendosi conto che la luce grigia dell'alba si stava diffondendo sulla pianura. Si mise a sedere e si sfregò gli occhi. Conan era accosciato davanti ai cactus, intento a cogliere i loro frutti e a toglierne destramente le spine. «Non mi hai svegliata! Mi hai lasciata dormire tutta la notte!» «Eri stanca e il sedere deve esserti diventato piatto dopo quella lunga cavalcata. Voi pirati non siete abituati a montare a cavallo!» «E tu?» «Io ero un kozako prima di fare il pirata, e i kozaki vivono in sella. Riesco a socchiudere gli occhi come una pantera che attende l'arrivo del cervo. Le mie orecchie seguitano a stare in guardia anche se gli occhi dormono.» e il mastodontico barbaro sembrava veramente riposato come se avesse dormito tutta la notte su un letto d'oro. Dopo avergli levato le spine e la buccia, porse alla ragazza un frutto spesso e succoso di cactus. «Ora pulisciti i denti con questo frutto. Gli uomini del deserto ci si sfamano e ci si dissetano. Una volta ero capo degli Zuagir, nomadi del deserto che vivono assalendo le carovane». «C'è qualcosa che non sei mai stato?» gli domandò la ragazza, al tempo stesso ironica e affascinata. «Non sono mai stato re di un regno iboriano, però ho sognato di esserlo. Potrebbe anche capitarmi un giorno, perché no?» Valeria scosse la testa davanti a tanta convinzione e affondò i denti nel frutto. Scoprì che non era sgradevole al palato e pieno di succo fresco e dissetante. Dopo aver finito di mangiare, Conan si pulì le mani con la sabbia, si alzò, si passò una mano nella bruna criniera e si allacciò il cinturone della spada e disse: «Bene, possiamo andare. Se gli abitanti di quella città intendono tagliarci la gola, è meglio che lo facciano subito, prima che arrivi il caldo». Il suo umorismo nero era involontario, ma Valeria rifletté che poteva essere profetico. Si allacciò anche lei la spada e si alzò. Le paure della notte erano passate. I draghi che ruggivano nella foresta lontana erano come un brutto sogno. Raggiunse il cimmero con passo spavaldo. Qualunque pericolo li attendesse, i loro nemici sarebbero stati pur sempre uomini e la Valeria della Confraternita Rossa non aveva mai incontrato un uomo che le avesse ispirato paura. Conan la guardò arrivare e mettersi al suo fianco col suo passo molleggiato. «Cammini più come un montanaro che come un marinaio. Devi essere di Aquilonia. Il sole di Darfar non ha mai bruciato la tua pelle bianca. Molte principesse te la invidierebbero». «Sì, sono di Aquilonia». I complimenti del suo compagno non le davano più fastidio, anzi, la sua palese ammirazione le faceva piacere. Qualunque altro uomo che avesse vegliato sul suo riposo l'avrebbe mandata su tutte le furie. Aveva sempre respinto con fierezza qualsiasi maschio che pretendesse di proteggerla perché donna. Ma le infondeva invece un segreto piacere il fatto che fosse stato quell'uomo a vegliare il suo sonno. E non aveva neanche approfittato della sua paura e della conseguente debolezza. Dopotutto, rifletté, il suo compagno non era un uomo comune. Il sole intanto si alzò sulla città, conferendo alle torri un sinistro colore cremisi. «Nera è stata la notte contro la luna. Rosso sangue è l'aurora contro il sole. Non mi piace questa città». Tuttavia proseguirono, e mentre si avviavano, Conan osservò che da nord non c'erano strade per la città. «Non è passata nessuna mandria sulla pianura da questa parte della città. Nessun aratro tocca questa terra da anni, forse da secoli. Guarda, però, una volta questa pianura era coltivata». Valeria vide gli antichi canali di irrigazione che lui le indicava, ricoperti dalla vegetazione e dai cactus. Aggrottò le sopracciglia perplessa mentre posava lo sguardo sulla pianura che si stendeva da ogni parte della città e arrivava fino al limitare della foresta, che la circondava come un grande anello buio. La vista non arrivava oltre quell'anello. Valeria guardò con inquietudine la città. Neanche uno scintillare d'elmi o di lance sopra i bastioni, né uno squillo di tromba, né una voce dalle torri. Sulle mura e sui minareti regnava un silenzio assoluto come quello della foresta. Il sole era alto nell'emisfero orientale quando arrivarono sotto la grande porta del muro nord, all'ombra di una scala altissima. I rinforzi di ferro del mastodontico portale di bronzo erano macchiati di ruggine. Sui cardini, davanti alla soglia e intorno alle ante borchiate, brillavano le ragnatele. «Non viene aperta da anni!» «Una città morta! Ecco perché i fossati erano ricoperti dalle erbacce e la pianura incolta!» «Ma chi l'ha costruita? Chi ci viveva? Dove sono andati? Perché l'hanno abbandonata?» «E chi può dirlo? Forse è stata costruita da un clan stigiano in esilio, ma l'architettura non sembra stigiana. Forse gli abitanti sono stati portati via dai nemici, oppure li ha sterminati una pestilenza». «In tal caso i loro tesori potrebbero essere ancora dentro, ricoperti di polvere e ragnatele». Conan guardò perplesso il grosso portale, ma poi vi appoggiò le spalle massicce e fece forza con tutta la potenza dei muscoli dei polpacci e delle cosce. Gemendo sui cardini arrugginiti, la porta si aprì pesantemente verso l'interno e Conan si raddrizzò e sfoderò la spada. Valeria, che era dietro a lui, emise un gemito di sorpresa. Davanti a loro, infatti, non c'era una strada aperta o un cortile, come si aspettavano. La porta dava direttamente in una grande sala che si allungava a non finire, scomparendo in lontananza. Aveva dimensioni colossali e il pavimento fatto di una strana pietra rossa tagliata a lastre squadrate. Sembrava rifulgere come fuoco. I muri erano di un materiale verde rilucente. «Se quella non è Giada, io sono uno scemita!» «Non in simile quantità!» «Ho depredato abbastanza carovane di Kita per sapere cosa sto dicendo!» «Quella è Giada!» La volta del soffitto era di lapislazzulo e ogni tanto apparivano come decorazione delle grosse pietre verdi che avevano una luce ipnotica. «Pietre di fuoco verde, è così che le chiama la gente di Punt. Si pensa che siano gli occhi pietrificati di certi serpenti preistorici che gli antichi chiamavano serpenti d'oro. Al buio brillano come gli occhi di un gatto. Di notte questa sala viene rischiarata dalla loro luce». Ma deve essere un'illuminazione diabolicamente infernale. Diamo un'occhiata intorno. Forse possiamo trovare un deposito segreto di gioielli. Chiudi la porta. Non vorrei essere inseguita da qualche drago dentro questa sala. Conan rise e replicò. Io non credo che i draghi lascino mai la foresta. Tuttavia obbedì e richiuse il catenaccio che all'interno era saltato. Mi è parso di sentire una specie di schianto quando l'ho sfondato. Quel catenaccio è stato rotto di recente. La ruggine l'ha quasi mangiato. Se la popolazione è scappata di corsa, perché è rimasta chiusa dall'interno? Di sicuro saranno usciti da un'altra porta. Si chiese quanti secoli fossero passati dall'ultima volta che la luce del giorno era filtrata in quell'enorme sala dalla porta aperta. Il sole tuttavia riusciva a farsi strada e individuarono subito da dove. Sulla volta del soffitto, infatti, c'erano dei lucernari quadrati di un materiale traslucido simile al cristallo. Nelle zone buie che li separavano, le gemme verdi scintillavano come gli occhi di un gatto adirato. Sotto i loro piedi, il pavimento levigato assumeva riflessi cangianti come i colori delle fiamme. Sembrava di camminare sul pavimento dell'inferno con le stelle malevole che ammiccavano dall'alto. Tre gallerie balaustrate correvano lungo entrambi i lati della sala, l'una sull'altra. È un edificio a quattro piani e questa sala sale fino al tetto. È lunga come una strada. Mi sembra di vedere una porta giù in fondo. Valeria scrollò le spalle dalla pelle bianca. I tuoi occhi sono migliori dei miei, allora, anche se i pirati mi attribuiscono una vista da falco. Entrarono a caso in una porta aperta e attraversarono tutta una serie di stanze vuote, pavimentate come la sala d'ingresso e con le pareti della medesima giada verde, oppure di marmo o di calcedonio e adornate di fregi di bronzo, d'oro e d'argento. Sui soffitti erano incastonate le gemme di fuoco verde e la luce da loro emanata era diabolica e misteriosa, come Conan aveva predetto. I due intrusi si muovevano come spettri sotto quel luccichio stregato. Alcune stanze mancavano di tale illuminazione e le loro soglie si aprivano nere come la bocca di un pozzo. Valeria e Conan le evitarono, preferendo passare per quelle illuminate. Agli angoli pendevano le ragnatele, ma sul pavimento la polvere non si era accumulata e nemmeno sui tavoli, sulle sedie di marmo, di giada o di granito che occupavano le sale. Qua e là si vedevano tappeti di seta del Kitan, famosi per essere praticamente indistruttibili. Non trovarono da nessuna parte né porte né finestre che dessero sulla strada. Ogni nuova porta si apriva su un'altra stanza o su un corridoio. Perché non cerchiamo di uscire in strada? Questo palazzo, qualunque cosa sia, deve essere grande come il serraglio del re di Turan. Non credo siano morti per un'epidemia. Altrimenti avremmo trovato degli scheletri. Forse è stata infestata dagli spiriti e la popolazione è fuggita. Forse... Al diavoli, forse! Non lo sapremo mai. Guarda questi fregi. Ritraggono degli uomini. Di che razza sono? Conan li osservò attentamente e scosse la testa. Non ho mai visto un popolo come questo. Ma hanno tratti orientali, del Vendia forse, o di Kosala. Sei stato re di Kosala? No, ma sono stato capo degli Afghuli, gente guerriera che vive sui monti Imeliani, sopra i confini del Vendia. Questi qui somigliano ai Kosolani, ma perché i Kosolani avrebbero costruito una città così lontano? Le figure ritraevano uomini e donne snelli, dalla carnagione verde oliva e dai tratti del viso esotici e finemente cesellati. Indossavano vesti leggere e portavano molti ornamenti preziosi e delicati ed erano ritratti principalmente in scene di danza, d'amore o festeggiamenti. Orientali, questo è chiaro, ma di dove esattamente non lo so. Avranno condotto una vita disgustosamente pacifica, altrimenti avremmo visto qualche scena di guerra o di lotta. Saliamo su per quelle scale. Nella sala in cui si trovavano c'era una scala d'avorio a chiocciola. Superate tre rampe di gradini, arrivarono in un'ampia camera al quarto piano che sembrava l'ultimo. Dai lucernari filtrava un po' di luce e le gemme incastonate nel soffitto emanavano pallidi scintillii. Sbirciando dalle porte, videro una serie di stanze, tutte illuminate allo stesso modo, tranne una. La porta di quest'ultima conduceva una galleria balaustrata affacciata su un corridoio molto più piccolo di quello che avevano appena esplorato al piano inferiore. Al diavolo! Quelli che hanno abbandonato questa città devono aver portato via tutti i loro tesori! Sono stufa di girare alla cieca in queste stanze vuote! Tutte le stanze superiori sembrano illuminate. Vorrei trovare una finestra che dia sulla città. Diamo un'occhiata oltre quella porta laggiù. Dalla tu. Io resto qui seduta a riposare i piedi. Conan scomparve oltre la porta opposta a quella che si apriva sulla galleria e Valeria si appoggiò al muro con le mani dietro la testa e allungò gli stivali. Quelle stanze e quei saloni silenziosi, con quelle gemme verdi scintillanti e quei pavimenti rosso fiamma, cominciavano a deprimerla. Si augurava di trovare una via d'uscita da quel labirinto e ritrovarsi nuovamente in strada. Si chiese oziosamente quali piedi furtivi avessero mai attraversato quei pavimenti fiammeggianti nei secoli passati, quante crudeltà e quanti misteri avessero illuminato le gemme ammagliatrici di quei soffitti. Fu un leggero scalpiccio a riscuoterla dai suoi pensieri. Si alzò in piedi con la spada in pugno, senza sapere bene che cosa l'avesse disturbata. Conan non era tornato e sapeva che non era stato lui a provocare quel suono. Il suono era venuto da un punto oltre la porta che si affacciava sulla galleria. Senza far rumore, Valeria avanzò silenziosamente con i suoi morbidi stivali e si infilò dentro e scivolò su una balconata e guardò giù tra i pesanti pilastri della balaustra. Nel salone si aggirava un uomo. La vista di un essere umano in quella città che sembrava deserta fu un vero trauma. Rannicchiandosi sulle ginocchia dietro la balaustrata, con tutti i nervi tesi, Valeria spiò la misteriosa figura. L'uomo non somigliava minimamente alle figure effigiate nei fregi. Superava di poco l'altezza media e aveva la pelle molto scura, pur non essendo di razza nera. Era completamente nudo, fatta eccezione per una fascia di seta che gli copriva soltanto in parte le natiche muscolose e una cintura di pelle alta un palmo legata intorno alla vita. I suoi lunghi capelli neri cadevano in ciocche lisce sopra le spalle, conferendogli l'aspetto di un selvaggio. Era molto magro e sulle braccia e sulle gambe nodose si vedevano i fasci muscolari, senza quel rivestimento di grasso che crea una piacevole simmetria di linee. Era talmente asciutto da riuscire quasi ripugnante. Eppure non era tanto il suo aspetto fisico quanto il suo atteggiamento a colpire la donna che lo osservava. Camminava furtivo, quasi ingobbito, spostando continuamente la testa a destra e a sinistra. Stringeva una lama a punta larga nella mano destra e questa gli tremava visibilmente dall'emozione. Era spaventato, in preda al terrore. Quando girò la testa, Valeria vide il luccichio dei suoi occhi selvaggi sotto le ciocche dei capelli neri. L'uomo invece non la vide. Attraversò la sala in punta di piedi e scomparve per una porta aperta. Un attimo dopo, Valeria udì un grido soffocato e poi fu nuovamente silenzio. Bruciando di curiosità, percorse tutta la galleria finché non scovò una porta che si trovava sopra quella varcata dall'uomo. Questa conduceva in un'altra galleria, più piccola della prima, la quale girava intorno a un'ampia sala. Tale sala si trovava al terzo piano e il soffitto non era alto come quello del salone al pianterreno. era illuminata esclusivamente dalle pietre di fuoco e la loro malefica luce verde lasciava in ombra le zone sotto la balconata. Valeria spalancò gli occhi. L'uomo che aveva visto si trovava ancora nella sala. Era sdraiato a faccia in giù su un tappeto rosso scuro al centro della stanza. Il corpo era inerte e le braccia aperte. Accanto aveva la sua spada ricurva. Valeria si chiese perché giacesse lì sopra così immobile, ma poi guardò meglio il tappeto. Questo, sotto e intorno a lui, aveva un colore leggermente diverso, un rosso più scuro e più acceso. Con un leggero brivido si abbassò di più dietro la balaustra e scrutò intensamente le ombre sotto la balconata, ma non rivelavano alcun segreto. Improvvisamente apparve sulla lugubre scena un'altra figura. Era un uomo simile al primo e arrivava da una porta opposta a quella che dava sul salone. Alla vista dell'altro disteso sul pavimento, sgranò gli occhi e disse qualcosa che somigliava a «Kikmek!». Il compagno non si mosse. L'uomo attraversò rapidamente la stanza, si chinò e girò l'altro per le spalle. Non appena vide la testa ciondolare all'indietro, rivelando la gola recisa da parte a parte, gli sfuggì un grido soffocato. Lasciò ricadere il cadavere sul tappeto sporco di sangue e si rialzò in piedi, tremando come una foglia al vento. La sua faccia era una maschera di terrore. Pronto a fuggire, si bloccò invece all'improvviso, immobilizzandosi come una statua e scrutando nella sala con gli occhi sgranati. Nelle ombre proiettate dalla balconata cominciò a luccicare una luce diabolica sempre più forte, una luce che non era emessa dalle pietre di fuoco. Valeria sentì rizzarlesi i capelli mentre guardava, perché appena visibile tra quei raggi pulsanti fluttuava un teschio umano. Ed era da questo teschio, umano ma al tempo stesso mostruosamente deforme, che sembrava emanare la luce sepolcrale. Stava sospeso come una testa staccata uscita dalla notte e dalle ombre, diventando sempre più nitido nei contorni, umano eppure non umano, nel senso in cui intendeva Valeria. L'uomo era rimasto immobile, viva rappresentazione di un orrore paralizzante, e fissava l'apparizione con uno sguardo vitreo. L'oggetto si staccò dal muro, seguito da un'ombra grottesca. Lentamente l'ombra divenne visibile. Era una figura somigliante a un uomo dal torso e dalle membra bianche che luccicavano come ossa sbiancate dal sole. Sopra le spalle il teschio levigato sorrideva dalle orbite vuote, circondato da quel chiarore lattiginoso, e l'uomo che gli stava davanti pareva incapace di staccargli gli occhi di dosso. Rimaneva immobile, la spada nella mano inerte, con l'espressione di chi è sotto l'effetto dell'ipnosi. Valeria si rese conto che non era solo la paura a immobilizzarlo. Quella luce pulsante lo aveva privato in qualche modo della capacità di agire e di pensare. Perfino lei, che si trovava al sicuro al di sopra della scena, avvertiva l'influenza sottile di un'emanazione sconosciuta che minacciava il suo equilibrio mentale. Alla fine l'orrore si mosse verso la sua vittima e l'uomo abbandonò la spada e cadde in ginocchio, coprendosi gli occhi con le mani. Attese inerte il colpo della lama che adesso era apparsa in mano allo spettro, pronto ad abbattersi sopra di lui come la morte che trionfa sull'umanità. Valeria agì seguendo il primo impulso della sua natura indomita e con un movimento da tigre saltò sopra la baluastra e si lasciò cadere sul pavimento alle spalle dell'apparizione. Questa si girò non appena i suoi morbidi stivali atterrarono sul pavimento. Ma Valeria era già pronta a colpire con la spada e provò una fiera esultanza quando sentì la lama entrare entro la carne non illusoria e fra ossa mortali. Lo spettro urlò e cadde a terra, ferito alla spalla, al petto e alla spina dorsale, e mentre cadeva il teschio luminoso rotolò per terra, rivelando una massa di capelli neri e una faccia scura, contorta dagli spasimi della morte. Sotto quell'orrido travestimento c'era un essere umano, un uomo simile a quello supinamente inginocchiato sul pavimento. Quest'ultimo, al suono del colpo e dell'urlo, alzò la testa e guardò completamente sbalordito la donna dalla pelle bianca eretta sopra il cadavere con la spada gocciolante di sangue ancora in mano. Si rimise in piedi barcollando, balbettando come se quella vista gli avesse levato la ragione. Valeria fu sorpresa di scoprire che lo capiva. Farfugliava in lingua astigiana, anche se parlava un dialetto a lei sconosciuto. Tu chi sei? Da dove vieni? Che cosa fai, Axokrog? Poi, senza aspettare la sua risposta, si affrettò a continuare. Ma sei un'amica, dea o diavolessa che tu sia! Non fa differenza! Tu hai ucciso il teschio lucente! Non c'era che un uomo dietro, in fin dei conti! Noi credevamo che fosse un demone evocato dalle catacombe, da loro! Ascolta! Si interruppe improvvisamente e si irrigidì, tendendo al massimo le orecchie. La ragazza, invece, non sentiva nulla. Dobbiamo affrettarci! Loro si trovano a ovest della grande sala! Potrebbero essere intorno a noi! Forse in questo stesso momento stanno per assalirci! L'afferrò per il polso con una stretta da forsennato, dalla quale Valeria fece fatica a liberarsi. A chi ti riferisci quando dici loro? Gli chiese. L'uomo la guardò per un attimo senza comprendere, come se la sua ignoranza in proposito fosse inconcepibile. Loro? Ma la gente di Xodank! Il clan dell'uomo che tu hai ucciso! Quelli che abitano alla porta orientale! Vuoi dire che questa città è abitata? Certo, certo! Andiamocene adesso, svelta! Dobbiamo tornare a Tecucli! E dov'è? È il quartiere della porta occidentale! L'aveva afferrata di nuovo per un polso e cercava di trascinarla verso la porta dalla quale era arrivato. Dalla fronte gli colavano grosse gocce di sudore e gli occhi ardevano di terrore. Aspetta un attimo! Tieni le mani a posto, altrimenti ti spacco la testa in due! Che cos'è questa storia? Tu chi sei? Dove vorresti portarmi? L'uomo cercò di controllarsi. Poi, lanciando occhiate a destra e a sinistra, cominciò a parlare talmente in fretta da mangiarsi le parole. Mi chiamo Tecutl, sono di Tecutli! Io e questo uomo che giace a terra con la gola tagliata siamo entrati nelle sale del silenzio per tendere un agguato a certi xotalanchi. Ma poi siamo stati separati e io sono tornato qui e l'ho trovato sgozzato. È stato il teschio lucente, lo so, e avrebbe ucciso così anche me se tu non mi avessi salvato. Ma forse non era solo. Potrebbero arrivare degli altri da Xotalank. Perfino gli dei non ridiscono davanti alla sorte di coloro che vengono catturati vivi. A quel pensiero tremò di terrore e la sua faccia scura divenne cinerea. Valeria lo guardò perplessa. Intuiva che c'era qualcosa di vero in tutta quella storia, ma le risultava ancora incomprensibile. Si girò a guardare il teschio, che seguitava a emettere luce sul pavimento, e stava per toccarlo con la punta dello stivale, quando Tecotl la bloccò con un urlo. «Non toccarlo, non guardarlo nemmeno! Mi si nascondono la follia e la morte! Solo i maghi di Xotalank conoscono il suo segreto! L'hanno trovato nelle catacombe vicino alle ossa dei re sanguinari che hanno regnato Xutol nei secoli bui del passato! Guardarlo agghiaccia il sangue e paralizza la mente di tutti coloro che non ne conoscono il mistero! Toccarlo provoca pazzia e morte!» Valeria parve dubbiosa. Non aveva un aspetto rassicurante, quell'uomo magro e nodoso con quei riccioli a serpentello. Nei suoi occhi, oltre al terrore, brillava una strana luce che lei non aveva mai visto nello sguardo di una persona sana di mente. Eppure sembrava sincero nelle sue proteste. «Andiamo! Tu sei straniera! Come sei arrivata qui io non lo so, ma se fossi un demonio o una dea venuta in aiuto di Tecutli, sapresti già tutto quello che mi hai chiesto. Forse vieni dalla grande foresta, da dove arrivano i nostri antenati. Però sei nostra amica, altrimenti non avresti ucciso il mio nemico. E ora andiamocene svelta, prima che gli Xotalanchi ci trovino e ci uccidano!» Allontanando lo sguardo dalla sua faccia repellente e infiammata, Valeria lo posò sul teschio nefasto che seguitava a emettere luce sul pavimento vicino al morto. Sembrava il teschio di un sogno, innegabilmente umano, ma al tempo stesso deforme e distorto. Da vivo, il proprietario doveva aver avuto un aspetto alieno e orrendo. Da vivo? Quel teschio sembrava vivo. Le mascelle si aprirono e sbatterono. La sua luce divenne più forte, più vivida, e anche l'impressione da incubo crebbe. Era un sogno. Tutta la vita era un sogno. Fu solo la voce concitata di Tecotl a richiamare Valeria dai cupi abissi in cui stava cadendo. «Non guardare il teschio, non guardarlo!» Valeria si riscosse come un leone che agita la criniera. Le si schiarì la vista. Tecotl stava dicendo: «Da vivo ospitava l'orrendo cervello di un re dei maghi e prende ancora la vita in un fuoco magico dagli spazi esterni!» Con un'imprecazione, Valeria sobbalzò simile a una pantera e il teschio venne ridotto in 1000 pezzi fiammeggianti dalla sua indomita spada. In una parte della stanza, o nel vuoto, o nei profondi recessi della sua coscienza, una voce non umana gridò di collera e di dolore. Tecotl la stava tirando per un braccio, farfugliando. «L'hai rotto! Lo hai distrutto! Neppure la magia nera di Xotalanc potrebbe ricostruirlo! Andiamocene, svelta di corsa!» «Ma non posso venire con te! Ho lasciato un amico vicino a...» L'espressione degli occhi di lui, che fissavano terrificati qualcosa alle sue spalle, la fece tacere immediatamente. Si voltò appena in tempo, mentre 4 uomini arrivavano di corsa da porte diverse, convergendo verso la coppia che si trovava al centro della stanza. Somigliavano agli altri due, gli stessi muscoli nodosi sulle gambe scheletriche, i medesimi capelli corvini scarmigliati, lo stesso sguardo folle negli occhi. Erano armati e vestiti come Tecotl, ma sul petto recavano dipinto un teschio bianco. Non ci furono gridi di sfida e né urli di battaglia. Come tigri assetate di sangue, gli uomini di Xotalanc si avventarono alle gole dei loro nemici. Tecotl li affrontò con la furia della disperazione, si abbassò per evitare una stoccata, afferrò corpo a corpo l'avversario e lo fece rotolare con lui sul pavimento, lottando in micidiale silenzio. Gli altri 3 assalirono Valeria, con gli occhi rossi come quelli di cani impazziti. Lei uccise il primo che arrivò a tiro, prima che questo avesse il tempo di colpire, spaccandogli il cranio con la spada lunga e diritta non appena l'uomo sollevò la sua. Poi, mentre parava un fendente, si spostò di lato e compì un affondo. Aveva una luce negli occhi e un sorriso spietato sulle labbra. Era tornata ad essere Valeria della Confraternita Rossa e il sibilo dell'acciaio era come un canto di nozze per le sue orecchie. La sua spada superò una lama che cercava di parare la stoccata e si infilò di punta nel corpetto di pelle dell'avversario. L'uomo aprì la bocca e cadde in ginocchio, ma il suo compagno, che era più alto, in feroce silenzio partì all'attacco, martellandola come una pioggia di colpi talmente furiosi che Valeria non ebbe il tempo di contrattaccare. Allora indietreggiò con freddezza, parando i fendenti e aspettando l'occasione di arrivare a segno. L'avversario non poteva continuare a colpire con quella foga ancora per molto. Il suo braccio si sarebbe stancato, gli sarebbe mancata la forza, avrebbe cominciato a esitare, e allora la lama di Valeria sarebbe penetrata facilmente nel suo cuore. Un'occhiata di lato le mostrò Tecotl inginocchiato sul petto dell'avversario che cercava di liberare il polso dalla stretta dell'altro per riuscire a pugnalarlo. La fronte dell'uomo che le stava innanzi colava sudore e i suoi occhi parevano 2 tizzoni ardenti. Poteva colpire come voleva, ma non riusciva a raggiungerla e né a superare la sua guardia. Aveva il fiato mozzo e i suoi colpi cominciavano ad abbattersi alla cieca. Valeria indietreggiò per infilarlo con la spada e venne bloccata alle cosce di una stretta di ferro. Aveva scordato l'uomo ferito sul pavimento. Piegato sulle ginocchia, questo la teneva ferma, bloccandole le gambe con tutte e 2 le braccia, e il suo compagno, gongolando di trionfo, cominciò a farsi strada verso di lei, attaccandola da sinistra. Valeria sferrava colpi selvaggi, ma invano. Poteva liberarsi dalla morsa con uno scatto all'indietro della spada, ma in quello stesso istante la lama ricurva del guerriero alto le avrebbe fracassato il cranio e il ferito cominciò a morderle la coscia nuda con i denti come una bestia selvatica. Tendendo il braccio sinistro, Valeria lo afferrò per i lunghi capelli, costringendolo a reclinare la testa, mostrandole i denti bianchi e gli occhi roteanti. Lo Xotalanco alto lanciò un urlo selvaggio e balzò in avanti, colpendo con tutta la forza che aveva nel braccio. Valeria parò bravamente il colpo, ma il piatto della lama le ferì la testa di dove cominciò a colarle il sangue davanti agli occhi. La spada nemica si sollevò di nuovo, accompagnata da un grido roco e bestiale di trionfo da parte dell'uomo. E poi apparve un colosso alle spalle dello Xotalanco e l'acciaio guizzò con un lampo azzurro. L'urlo del guerriero cessò d'un tratto e questi cadde giù come un bue sotto la scura del macellaio, con le cervella che schizzavano fuori dal cranio spaccato fino alla gola. «Conan!» In un impeto di ferocia si voltò verso lo Xotalanco, al quale teneva ancora stretti i lunghi capelli nella mano sinistra. «Cane uscito dall'inferno!» La sua spada sibilò e tagliò l'aria, descrivendo un arco nel mezzo, e il corpo decapitato crollò sul pavimento schizzando sangue. Valeria scagliò la testa mozza dall'altra parte della stanza. «Che diavolo succede qui dentro?» Conan calpestò il corpo dell'uomo che aveva ucciso con la spada ancora in pugno, guardandosi intorno esterrefatto. Tecotl si stava rialzando dal cadavere contorto dell'ultimo Xotalanco, scuotendo le gocce rosse del pugnale. Un taglio profondo gli faceva sanguinare la coscia. Guardò Conan con due occhi sgranati. «Che significa tutto ciò?» tornò a chiedere Conan, non ancora riavutosi dalla sorpresa di aver trovato Valeria impegnata in una lotta selvaggia con quegli uomini usciti come fantasmi dalla città che aveva creduto deserta e disabitata. Tornato da un'infruttuosa esplorazione delle stanze superiori e non trovando più Valeria dove l'aveva lasciata, aveva seguito i rumori della lotta che risuonavano nelle sue orecchie incredule. «Cinque cani morti! Cinque macellati! Cinque chiodi rossi per la colonna nera! Gli dei del sangue siano ringraziati!» esclamò Tecotl esultando di gioia. Sollevò al cielo le mani tremanti, poi con un'espressione diabolica sul viso sputò sui corpi e calpestò le loro facce, danzando di macabra gioia. I suoi nuovi alleati lo guardarono sbalorditi e Conan, nella lingua di Aquilonia, chiese: «Chi è questo matto?» «Dice di chiamarsi Tecolt. Dai suoi farfugliamenti ho capito che il suo popolo vive a un capo di questa folle città e questi qui dalla parte opposta. Forse faremmo meglio ad andare con lui. Sembra ben disposto e mi sembra di capire che l'altro clan non lo è.» Tecotl aveva smesso di ballare e si era messo nuovamente in ascolto, con la testa piegata da una parte come un cane, la gioia del trionfo che gli appariva sul viso ripugnante, smorzata dalla paura. «Adesso andiamocene! Abbiamo fatto abbastanza! Cinque cani morti! Il mio popolo vi accoglierà a braccia aperte! Vi onorerà! Venite però! Tecurtli è lontana! Gli Xotalanchi potrebbero arrivare da un momento all'altro in numero troppo grande perfino per le vostre spade!» «Facci strada allora!» mugugnò Conan. Tecotl salì subito su una scala che conduceva alla galleria e fece cenno di seguirlo, cosa che i due fecero muovendosi rapidamente per stargli dietro. Dopo aver raggiunto la galleria, si infilò in una porta che si apriva a ovest e superò in fretta camera dopo camera, ognuna delle quali era illuminata dai lucernari o dalle pietre di fuoco. «Che razza di posto è questo?» «Lo sa Crom, ma io ho già visto la sua razza. Vivono sulle rive del lago Zuad, vicino alla frontiera di Kush. Sono una specie di stigiani bastardi, incrociatisi con un'altra razza che è arrivata dall'Oriente alcuni secoli fa nella Stigia. Li chiamano Tlazitlani, ma sono pronto a scommettere che non sono stati loro a costruire questa città.» Le paure di Tecotl non sembravano diminuite neanche quando si furono allontanati dalla stanza dei cadaveri. Seguitava a spostare la testa a destra e a sinistra, in caccia di rumori di un eventuale inseguimento, e scrutava intensamente da ogni soglia che varcavano. Valeria, suo malgrado, aveva i brividi. Non temeva l'uomo, ma lo strano pavimento che aveva sotto i piedi, le pietre malefiche che luccicavano dall'alto, il terrore mostrato dalla loro guida, e le davano tutto questo un'ansia inspiegabile, la sensazione di qualche pericolo in agguato. «Potrebbero trovarsi tra noi e Tecurtli! Dobbiamo stare in guardia!» «Perché non ce ne andiamo da questo posto diabolico e non usciamo in strada?» «Non ci sono strade, Xulkogl! Niente piazze, niente cortili! L'intera città è costruita come un gigantesco palazzo sotto un unico grande tetto! La cosa che si avvicina di più a una strada è la sala grande che attraversa la città dalla porta nord alla porta sud! Le sole porte che si aprono sul mondo esterno sono quelle della città, dalle quali non entra anima viva da 50 anni ormai!» «Da quanto tempo tu vivi qui?» «Io sono nato al castello di Tecutli 35 anni fa! Non ho mai messo piede fuori dalla città. In nome degli dei, camminiamo in silenzio. Questi corridoi potrebbero essere pieni di demoni in agguato. Olmec vi dirà tutto quanto quando arriveremo a Tecutli.» Così proseguirono in silenzio, con le pietre di fuoco verde che luccicavano dall'alto e il pavimento fiammeggiante che metteva riflessi sotto i loro piedi. E Valeria aveva la sensazione che stessero percorrendo l'inferno, guidati da un folletto dai capelli lunghi e dalla faccia scura. Tuttavia fu Conan a farli fermare mentre stavano attraversando una stanza particolarmente grande. Le sue orecchie, avvezze alla vita selvaggia, avevano un udito perfino più fine di quello di Tecotl, sebbene quest'ultimo le avesse aguzzate durante un'intera vita di battaglie combattute in quei corridoi silenziosi. «Credi che qualcuno dei vostri nemici ci stia aspettando per tenderci un agguato?» «Si nascondono in queste sale a tutte le ore, così come facciamo noi! I corridoi e le camere che si trovano tra Tecotl e Xotalanc sono territorio conteso e non appartengono a nessuno! Le chiamiamo le sale del silenzio! Perché me lo chiedi?» «Perché lì dentro ci sta aspettando qualcuno! Sento il rumore dell'acciaio contro la pietra!» Tecotl venne scosso da un nuovo tremito di paura e strinse forte i denti per non farli battere. «Forse sono i tuoi amici!» «Meglio non fidarsi!» rispose e si mosse freneticamente. Cambiò corridoio ed entrò in una porta sulla sinistra che conduceva in una stanza dalla quale partiva una scala d'avorio che conduceva giù nelle tenebre. «Questa scala porta in un corridoio che non è illuminato! Potrebbero essersi nascosti anche lì! Può essere tutto un trucco per prenderci in trappola! Ma dobbiamo confidare lo stesso nel fatto che ci abbiano teso l'imboscata di sopra! E adesso svelti!» Leggeri come fantasmi scesero la scala e giunsero all'imbocco di un corridoio nero come la notte. Rimasero un attimo fermi ad ascoltare e poi ripresero a camminare. Mentre avanzavano, Valeria si aspettava da un momento all'altro un colpo di spada alla schiena. Se non fosse stato per le dita di ferro di Conan che le stringevano il braccio, non avrebbe riconosciuto i suoi compagni. Per giunta, questi due facevano meno rumore di un gatto. Il buio era assoluto. Con la mano protesa ogni tanto toccava il muro e altre volte una porta. Il corridoio le pareva interminabile. Improvvisamente vennero messi in guardia da un rumore alle loro spalle. Valeria ebbe un nuovo fremito perché riconobbe il lento aprirsi di una porta. Nel corridoio erano giunti altri uomini. Mentre quel pensiero le attraversava la mente, inciampò su qualcosa che sembrava un teschio umano. Questo rotolò sul pavimento con un rumore terrificante. «Correte!» gridò Tecotl con una nota di isterismo nella voce, lanciandosi per il corridoio come un fantasma in fuga. Valeria sentì di nuovo la mano di Conan che la tirava e la trascinava per il corridoio dietro alla loro guida. Conan, nel buio, non poteva vedere meglio di lei, ma possedeva una specie di istinto che gli consentiva di non sbagliare. Senza il suo sostegno e la sua guida sarebbe caduta per terra, oppure avrebbe battuto contro il muro. Volarono per il corridoio, mentre il rapido calpestio di piedi si avvicinava sempre di più. Poi, all'improvviso, Tecotl ansimò. «Ecco la scala! Seguitemi, svelti, svelti!» La sua mano uscì dal buio e afferrò Valeria per il polso mentre la ragazza inciampava sugli scalini. Si sentì quasi trascinare, semisollevare su per la scala tortuosa, mentre Conan la lasciava e si voltava verso le scale, con l'udito e l'istinto che gli dicevano che i nemici gli erano alle spalle. E non erano affatto rumori di piedi umani. Sulle scale stava salendo qualcosa, qualcosa che frusciava e strisciava ghiacciando l'aria. Conan colpì verso il basso con la sua grande spada e sentì che la lama penetrava in qualcosa che poteva essere carne, spaccando anche il gradino sottostante. Qualcosa gli sfiorò il piede con un tocco gelido come il ghiaccio e poi nel buio sottostante si udirono colpi e tonfi tremendi e un uomo urlò di dolore. Un attimo dopo Conan aveva già risalito di corsa la scala ed era entrato in una porta aperta su in cima. Valeria e Tecotl erano già entrati e Tecotl chiuse violentemente la porta con il catenaccio, il primo che Conan vedeva da quando avevano varcato la porta della città. Poi l'uomo si voltò e attraversò di corsa la stanza ben illuminata dove erano arrivati, e mentre varcavano la porta di fronte, Conan si girò e vide che quella da cui erano entrati cigolava e tremava sotto la violenta pressione che veniva esercitata dall'altra parte. Anche se Tecotl non rallentò l'andatura e non scordò la cautela, adesso sembrava più sicuro di sé. Aveva l'aria di chi è arrivato nel proprio territorio e sa di poter chiamare in aiuto i suoi amici. Conan, però, rinnovò il suo terrore chiedendogli: «Contro che cosa ho combattuto sopra le scale?» «Erano gli uomini di Xotalanc! Ve l'avevo detto che i saloni brulicano di nemici!» «Quello non era un uomo, era una cosa strisciante e gelida come il ghiaccio! Credo di averla spaccata in due. È caduta addosso agli uomini che ci inseguivano e deve averne ucciso uno tra gli spasimi di dolore. La testa di Tecotl sussultò e la sua faccia divenne di nuovo cinerea. Affrettò nervosamente il passo. Era la creatura strisciante, un mostro che loro hanno tirato fuori dalle catacombe per aiutarli. Che cos'è? Noi non lo sappiamo, ma abbiamo trovato alcuni dei nostri barbaramente uccisi. In nome di Set, sbrigatevi! Se lo metteranno sulle nostre tracce, ci seguirà fino alle porte stesse di Tecutli! Ne dubito, gli ho assestato un bel colpo lì sulle scale. Correte, svelti! Corsero in una serie di camere dalla luce verde, attraversarono un grande salone e si fermarono davanti a una gigantesca porta di bronzo. Tecotl disse: «Questa è Tecutli!» Tre. Il popolo della faida. Tecotl picchiò con un pugno sulla porta di bronzo e poi si voltò a controllare il corridoio. «Sono molti gli uomini che hanno bussato questa porta credendo di essere in salvo!» «Perché non aprono?» «Ci stanno osservando dall'occhio! Sono sconcertati dalla vostra presenza!» «Apri la porta, Exela! Sono io, Tecotl, con degli amici venuti dal grande mondo oltre la foresta! Apriranno adesso!» assicurò Tecotl ai suoi alleati. «Allora faranno bene a sbrigarsi. Sento che striscia qualcosa al di là della sala!» Tecotl divenne nuovamente cinereo e prese la porta a pugni, urlando: «Aprite, stupidi, aprite! La creatura strisciante ci ha alle calcagna!» Mentre batteva i pugni gridando, la grossa porta di bronzo si aprì senza far rumore, rivelando una pesante catena che sbarrava l'entrata, dall'altra parte della quale spuntavano punte di lance e facce arcigne che li scrutarono per un istante. Poi la catena venne tolta e Tecotl afferrò per le braccia i suoi amici e li trascinò freneticamente dentro. Un'occhiata alle spalle mentre la porta si richiudeva mostrò a Conan il lungo corridoio, in fondo al quale stava apparendo un ofidio che si contorceva lentamente e spasmodicamente, entrando da una porta, con la testa macchiata di sangue che ondeggiava orrendamente. Poi la chiusura della catena lo nascose allo sguardo. Dentro la camera quadrata in cui adesso si trovavano, la porta venne sbarrata con pesanti catenacci e la catena venne rimessa al suo posto. Quella porta era stata fatta per resistere a un assedio. C'erano quattro uomini di guardia, tutti con i capelli sciolti e la pelle scura come Tecotl, con le lance in mano e le spade al fianco. Nel muro vicino alla porta c'era un gioco complicato di specchi che Conan immaginò fosse l'occhio di cui aveva parlato Tecotl, fatto in modo da poter osservare dall'interno attraverso un piccolo pannello di cristallo senza essere visti dall'esterno. Le quattro sentinelle fissarono gli stranieri con somma meraviglia, ma non fecero loro nessuna domanda, né Tecotl dette loro alcuna informazione. Adesso si muoveva con sicurezza, come se la paura lo avesse abbandonato non appena varcata la porta. «Venite!» esortò i nuovi amici, ma Conan lanciò un'occhiata alla porta. «E quei tizi che ci stavano inseguendo, non credi che tenteranno di sfondare la porta?» Tecotl scosse la testa. «Sanno perfettamente che non possono sfondare la porta dell'Aquila. Torneranno scornati a Xotalanc con il loro demonio strisciante. E adesso venite, vi condurrò dai signori di Tecutli!» Una delle quattro guardie aprì la porta di fronte a quella dalla quale erano entrati, introducendoli in un corridoio che, come quasi tutti gli ambienti di quel piano, era illuminato dai lucernari e dai grappoli di pietre di fuoco. A differenza però dagli altri ambienti che avevano attraversato, questo corridoio mostrava segni di vita. Arazzi di velluto adornavano infatti le pareti lucide di giada, sul pavimento rosso cremisi erano distesi sontuosi tappeti e i sedili, le panche e i divani erano sommersi da cuscini di seta. Il corridoio terminava davanti a una porta decorata che non era piantonata dalle guardie. Senza troppe cerimonie, Tecotl spalancò la porta e fece entrare i suoi amici in un'ampia stanza, dove una trentina di uomini e di donne dalla pelle scura erano sdraiati su divanetti di raso. I presenti, non appena videro i due stranieri, saltarono in piedi con esclamazioni piene di stupore. «Gli uomini!» tranne uno, somigliavano a Tecodl e le donne avevano tutte la pelle scura e un curioso taglio d'occhi che conferiva loro un fascino oscuro e misterioso. Portavano sandali, corpetti d'oro e gonne di seta frusciante sorrette da cinture intarsiate di gemme e le loro capigliature nere, tagliate all'altezza delle spalle nude, erano trattenute da cerchietti d'argento. Su un seggio d'avorio eretto su un podio di giada sedevano un uomo e una donna, notevolmente diversi dagli altri. Lui era un gigante, con un torso enorme e due spalle taurine. A differenza degli altri, portava la barba, una barba nera dai riflessi azzurri che gli arrivava quasi al grosso cinturone. Indossava una tunica di seta rosso-porpora che cambiava colore ad ogni movimento e una larga manica tirata su fino al gomito. Rivelava un braccio massiccio, rigonfio di muscoli. La benda che teneva in ordine i suoi riccioli corvini luccicava di pietre preziose. La donna che gli sedeva accanto balzò in piedi con un'esclamazione stupita non appena entrarono gli stranieri e i suoi occhi, dopo aver esaminato Conan, si posarono con sguardo ardente su Valeria. Era alta e snella, di gran lunga la più bella donna della sala. Era vestita più succintamente delle altre, poiché invece della gonna portava solo una larga fascia di stoffa purpurea che era fissata al centro della cintura e le arrivava sotto le ginocchia. Una seconda fascia pendeva dalla parte posteriore della cintura e completava il costume, che indossava ormai con spregiudicata noncuranza. Il corpetto d'oro che le fasciava il seno e il cerchietto intorno alla fronte erano anch'essi adorni di gemme. Tra tutta quella gente dalla pelle scura, i suoi occhi erano i soli i cui non brillasse la luce della pazzia. Non disse una parola dopo la prima esclamazione. Rimase in piedi rigida, a pugni chiusi, fissando Valeria. L'uomo sul trono d'avorio non si era alzato. «Principe Olmec, ti porto degli alleati provenienti dal mondo al di là della foresta!» «Nella sala di Texcoti, il teschio lucente ha ucciso Kikmek, il mio compagno!» «Il teschio lucente!» Ci fu un improvviso mormorio di paura tra la gente di Tecutli. «Sì, poi sono arrivato io e ho trovato Kikmek con la gola tagliata. Prima che riuscissi a scappare, il teschio lucente mi ha assalito e quando l'ho guardato il mio sangue si è mutato in ghiaccio e il mio midollo si è sciolto. Non potevo muovermi!» Non potevo far altro che attendere il colpo. Ma poi è arrivata questa donna dalla pelle bianca che lo ha colpito con la sua spada. E pensate, era soltanto un cane di Xotalanc con la faccia pitturata di bianco che si era messo sulla testa il teschio vivente dell'antico mago. Adesso il teschio è stato frantumato in mille pezzi e il cane che lo portava è morto. Una fiera esultanza vibrò in quell'ultima affermazione e venne immediatamente accompagnata da esclamazioni selvagge da parte degli astanti. «Aspettate tutti! C'è di più! Mentre io parlavo con la donna, ci sono saltati addosso quattro Xotalanchi! Io ne ho ucciso uno! La ferita che ho riportato alla coscia testimonia quanto sia stata disperata la mia lotta! La donna ne ha uccisi due! E mentre venivamo messi alle strette, è arrivato questo uomo che si è gettato nella mischia e ha spaccato in due il cranio del quarto! Sì, cinque chiodi rossi dovranno essere piantati nella colonna della vendetta!» Indicò la colonna d'ebano che si ergeva dietro al trono. La sua superficie liscia era scalfita da centinaia di punti rossi, le teste scarlatte di grossi chiodi di rame conficcati nel legno nero. «Cinque chiodi rossi per cinque vite di Xotalanc!» Esultò Tecotl e una gioia spaventosa apparve sulle facce degli astanti quasi con gioia disumana. «Chi sono queste persone?» domandò Olmec con una voce bassa e profonda come il muglio di un toro. Nessuno a Xutokl parlava a voce alta. Era come se avessero assorbito nell'anima il silenzio di quelle sale vuote e di quelle stanze deserte. «Io sono Conan, un cimmero, e questa donna è Valeria della Confraternita Rossa, una corsara aquilonese. Siamo disertori di un esercito che si trova sulla frontiera di Darfar, molto a nord, e stiamo cercando di raggiungere la costa.» La donna sul trono parlò a voce alta, incespicando nel parlare per la foga. «Non raggiungerete mai la costa! Non si può fuggire da Xutol! Passerete il resto della vostra vita in questa città!» «Che significa? Ci stai dicendo che siamo prigionieri? Non voleva dire questo. Noi siamo vostri amici. Non vi tratterremo mai contro la vostra volontà. Ma temo che altre circostanze rendano per voi impossibile lasciare Xutol. I suoi occhi si posarono su Valeria, poi si abbassarono rapidamente. Questa donna alla mia destra è Tascela. È una principessa di Tecutli. È ora che si portino cibo e rinfreschi per i nostri ospiti. Avranno senz'altro fame e saranno affaticati dopo i loro lunghi viaggi. Il re indicò un tavolo d'avorio e dopo essersi scambiati uno sguardo, i due avventurieri si misero seduti. Il cimmaro era sospettoso. I suoi fieri occhi azzurri frugarono la sala, mentre la mano non si staccava dalla spada. Ma non rifiutava mai un invito a bere e a mangiare. Seguitò a osservare Tascela, ma la principessa non aveva occhi che per la sua compagna dalla pelle bianca. Tecotl, che si era fasciato la coscia con una benda di seta, si mise seduto al tavolo per provvedere ai desideri dei suoi amici, considerando evidentemente un privilegio servirli. Esaminava il cibo che veniva portato loro in vassoi e piatti d'argento e assaggiava ogni pietanza prima di porgerla agli ospiti. Mentre mangiavano, Olmec restò in silenzio sul suo seggio d'avorio, osservandoli sotto le folte sopracciglia nere. Tascela gli sedeva accanto, con il mento tra le mani e i gomiti posati sulle ginocchia. I suoi enigmatici occhi scuri, che ardevano di una luce misteriosa, non lasciavano neanche per un attimo il corpo snello di Valeria. Alle sue spalle, una ragazza dalla cupa bellezza agitava lentamente un ventaglio di piume di struzzo. Il cibo era costituito di frutti esotici di una varietà sconosciuta ai due avventurieri, ma molto gradevole, e il vino aveva un colore rosso chiaro e un sapore molto forte. «Venite da molto lontano! Ho letto i libri dei nostri padri! Aquilonia si trova oltre le terre degli Stigiani e degli Scemiti, dopo Argos e Zingara, e la Cimmeria è ancora più lontana!» «Abbiamo entrambi un passo veloce!» «Come abbiate fatto a superare la foresta per me è un mistero. Nei tempi antichi perfino 1000 uomini armati avevano difficoltà a sfuggire ai suoi pericoli. Abbiamo incontrato un mostro da baraccone che era grosso come un mastodonte. Ma dopo averlo ucciso non abbiamo avuto altri problemi.» La coppa del vino scivolò nelle mani di Tecotl e si schiantò sul pavimento. La sua faccia scura divenne cinerea. Olmec si alzò immediatamente in piedi, completamente sbalordito, e tutti gli altri emisero un gemito di terrore. Qualcuno cadde in ginocchio come se non gli si reggessero più le gambe. Solo Tascela pareva non essersi accorta della coppa caduta. E Conan si guardò intorno meravigliato. «Che succede? Perché state tutti a bocca aperta?» «Tu hai ucciso il dio drago?» «Dio? Io ho ucciso un drago? Perché no? Voleva divorarci tutti e due!» «Ma i draghi sono immortali! Si uccidono l'un l'altro, ma nessun uomo ha mai ucciso un drago! I 1000 guerrieri mandati dai nostri antenati ad aprire la strada per Xucotl non riuscirono a vincerli! Le loro spade si spezzarono come fuscelli contro le loro scaglie!» «Se ai vostri antenati fosse venuto in mente di immergere le loro lance nel succo velenoso delle mele di Darcheta e li avessero colpiti agli occhi oppure in bocca, avrebbero visto che i draghi non sono più immortali di un manzo. La carcassa si trova al limitare degli alberi, all'inizio della foresta. Se non mi credete, andate pure a guardare!» Olmec scosse la testa, non per l'incredulità, ma per lo stupore. «È stato a causa dei draghi che i nostri antenati si sono rifugiati a Xucol. Non osavano attraversare la pianura ed entrare nella foresta. Vennero catturati e divorati a centinaia da quei mostri prima di riuscire a raggiungere la città.» «Allora non sono stati i vostri antenati a costruire questa città?» «La città già esisteva quando essi arrivarono in questa terra. Da quanto tempo non lo sapevano nemmeno i suoi degenerati abitanti?» «Il vostro popolo veniva dal lago Zuad.» «Sì, più di mezzo secolo fa. Una tribù tlazitlana si ribellò al re della Stigia e venendo sconfitta in battaglia fuggì a sud. Per intere settimane vagò per le praterie, il deserto e le montagne e alla fine giunse nella grande foresta. Erano all'incirca 1000 guerrieri che con loro avevano donne e bambini. Nella foresta vennero assaliti e sbranati dai draghi, così fuggirono terrorizzati e alla fine giunsero alla pianura e videro la città di Xucol. Gli abitanti della città chiusero le porte e gli scagliarono frecce dalle mura. E i tlazitlani si ritrovarono intrappolati nella pianura, con la foresta che li circondava come un grande muro, perché avventurarsi nei boschi sarebbe stata ormai una follia. Quella notte giunse segretamente al loro accampamento uno schiavo venuto dalla città, uno del loro stesso sangue, il quale da giovane, con un gruppo di esploratori, si era avventurato nella foresta. I draghi avevano divorato tutti gli altri soldati, mentre lui era stato portato in città e fatto schiavo. Si chiamava Tolkemec. Al pronunciare questo nome si accese una scintilla nei suoi occhi neri. Qualcuno, maledicendo quel nome, sputò per terra. Egli promise che avrebbe aperto le porte della città ai guerrieri e in cambio chiese soltanto che i prigionieri venissero consegnati a lui. All'alba aprì le porte. I guerrieri sciamarono dentro e le sale di Xutol si ricoprirono di sangue. Infatti vi abitava un piccolo gruppo di 100 persone, gli ultimi superstiti di un'antica razza potente. Tolkemec disse che erano arrivati dall'est molto tempo addietro, dall'antica Kosala, quando gli antenati di quelli che abitavano adesso a Kosala avevano scacciato gli abitanti originari di quella terra. Avevano vagato a ovest e alla fine avevano trovato questa pianura circondata dalla foresta e abitati all'epoca da una tribù di neri. Fecero schiava questa tribù e cominciarono a edificare una città. Dalle montagne dell'Oriente portarono giada, marmo e lapislazzuli, e oro, argento e rame. Pranchi di elefanti gli fornirono l'avorio, e quando la città fu finita, uccisero tutti i loro schiavi neri, e i loro maghi pronunciarono degli incantesimi terribili per proteggere la città. Dopodiché, con la necromanzia, ricrearono i draghi che una volta vivevano in questa terra perduta, dei quali avevano ritrovato le ossa nella foresta. A quelle ossa restituirono carne e vita, e i bestioni percorsero di nuovo la terra così come la percorrevano agli arbori dei tempi. Ma i maghi compirono un incantesimo che li teneva nella foresta, impedendo loro di arrivare alla pianura. Così la gente di Xutol visse per molti secoli nella città, coltivando la fertile pianura, finché i saggi impararono a far crescere la frutta entro le mura, frutta che non ha radici nel suolo e che trae nutrimento dall'aria. Così lasciarono seccare i canali di irrigazione e si abbandonarono sempre di più alla lussuria e al vizio, fino alla decadenza. Erano una razza morente quando i nostri antenati arrivarono dalla foresta e irruppero nella pianura. I loro maghi erano morti e gli altri avevano dimenticato l'antica arte. Non erano in grado di combattere né con la magia né con la spada. Allora i nostri padri uccisero tutti gli abitanti di Xutol, a eccezione di un centinaio di persone che vennero messe nelle mani di Tolkemec, il loro antico schiavo. E per molti giorni e molte notti le sale echeggiarono delle urla sotto l'agonia della tortura. E così i tlazitlani si stabilirono qui, in cerca di un po' di pace, sotto la guida dei fratelli Tecutli e Xotalanc, e di Tolkemec. Tolkemec prese in moglie una fanciulla della tribù, e poiché aveva aperto loro le porte e conosceva molte arti degli Xutoclani, divise il comando della tribù con i due fratelli che avevano capeggiato la ribellione e la fuga. Per qualche anno vissero in pace dentro la città, pensando soltanto a bere, a mangiare e a fare l'amore e ad allevare i figli. Non c'era bisogno di coltivare la pianura, perché Tolkemec insegnò loro come coltivare i frutti che si nutrono d'aria. Inoltre l'uccisione degli Xutolani aveva rotto l'incantesimo che imprigionava i draghi della foresta, e questi venivano di notte a ululare sotto le porte della città. La pianura si ricopriva continuamente di sangue. E fu allora che... Si interruppe. Poi riprese a parlare. Ma Conan e Valeria intuirono che aveva omesso qualche cosa che riteneva imprudente rivelare ai due stranieri. Per 5 anni vissero in pace. Poi Xotalanc prese in moglie una donna che sia Tecutli che il vecchio Tolkemec desideravano. Nella sua pazzia Tecutli la rapì al marito e lei lo seguì piuttosto volentieri. Tolkemec per ripicca verso Xotalanc aiutò Tecutli. Xotalanc chiese che gli venisse restituita la donna e il consiglio della tribù decise che la decisione spettava alla donna, e questa scelse di rimanere con Tecutli. Accecato dall'ira, Xotalanc cercò di riprendersela con la forza, e i sostenitori dei due fratelli arrivarono alle armi nella sala grande. Seguì un periodo molto triste. Venne versato sangue da entrambe le parti. La disputa divenne una faida e la faida guerra aperta. Dalla mischia emersero tre fazioni, quella di Tecutli, quella di Xotalanc e quella di Tolkemec. Come era già successo in tempi di pace, questi si divisero la città. Tecutli viveva nel quartiere occidentale, Xotalanc in quello orientale e Tolkemec con la sua famiglia alla porta meridionale. Rabbia, gelosia e risentimento provocarono spargimenti di sangue, violenze e uccisioni. Una volta sguainata la spada non c'era più ritorno, perché il sangue chiamava sangue e la vendetta chiamava vendetta. Tecutli combatteva contro Xotalanc e Tolkemec aiutava una volta l'uno e una volta l'altro, tradendo entrambe le fazioni per i propri fini. Tecutli e i suoi si ritirarono nel quartiere della porta occidentale, dove noi adesso ci troviamo. La città di Xutolo ha una pianta ovale. Tecutli, che prende il nome dal suo principe, si trova nella parte ovest dell'ovale. La gente bloccò tutte le porte che collegavano il quartiere al resto della città, a eccezione di una per piano, che poteva essere difesa facilmente. Scesero alle cisterne sotto la città e costruirono un muro che separava la zona occidentale dalle catacombe, dove giacciono i corpi degli antichi xutolani e tlazitlani uccisi nella faida. Vissero come se si trovassero dentro un castello assediato, facendo scorribande sortite contro i loro nemici. I seguaci di Xotalanc fecero lo stesso, fortificando la zona orientale della città, e anche Tolkemec fortificò il quartiere della porta orientale. La parte centrale della città rimase deserta e disabitata. Le sue sale e i suoi corridoi divennero vuoti e divennero territorio di battaglia e luogo di insidie. Tolkemec faceva la guerra a entrambi i clan. Era un diavolo dall'aspetto umano, perfino più spietato di Xotalanc. Conosceva molti segreti della città che non rivelò mai ad altri. Nelle cripte delle catacombe depredò i morti dai loro foschi segreti, i segreti degli antichi re e degli antichi maghi che i degenerati xutolani uccisi dai nostri avi avevano dimenticato. Ma tutte quelle conoscenze magiche non l'aiutarono la notte in cui Tecutli assalì il suo castello e massacrò tutta la sua gente. Torturammo Tolkemec per giorni e giorni. La sua voce divenne carezzevolmente odiosa e nei suoi occhi apparve uno sguardo lontano nel ripensare a quella scena che evidentemente gli arrecava un piacere profondo. «Sì, lo tenemmo in vita finché bramò la morte come se fosse una sposa». Alla fine lo portammo via dalla sala delle torture e lo gettammo in una segreta per farlo mangiare dai topi quando fosse morto. Invece riuscì misteriosamente a scappare dalla prigione e a trascinarsi fino alle catacombe. Lì senza dubbio morì, perché l'unica via di uscita dalle catacombe che passano sotto Tecutli è soltanto Tecutli e nessuno lo vide uscire da lì. Il suo scheletro non venne mai ritrovato e chi è superstizioso tra la nostra gente è pronto a giurare che il suo spirito infesta le cripte ancora oggi, ululando tra le ossa dei morti. 12 anni fa massacrammo gli abitanti di Tolkemec, ma la faida tra i Tecutli e gli Xotalanchi è continuata e così durerà finché l'ultimo uomo e l'ultima donna non saranno morti. È stato 50 anni fa che Tecutli rubò la moglie a Xotalanc. La faida continua da mezzo secolo. Io nacqui a quel tempo. Tutti quelli che vedi in questa sala, a eccezione di Tascela, sono nati allora. E ci aspettiamo di morire combattendo. Siamo una razza in via di estinzione, proprio come accadde a quegli xutolani che vennero sterminati dai nostri antenati. Quelli che restano dei Tecutli sono tutti qui davanti a voi. Siamo 40 in tutto, comprese le guardie che sorvegliano le quattro porte. Non so quanti Xotalanchi siano rimasti, ma dubito che siano molti più di noi. Da 15 anni non ci nascono figli e non abbiamo visto bambini nemmeno tra gli Xotalanchi. Stiamo morendo, ma prima di morire stermineremo tutti gli Xotalanchi che gli dei ci consentiranno di uccidere! Poi, con quegli strani occhi ardenti, Olmec parlò a lungo della faida combattuta in quelle camere e in quei saloni bui e silenziosi, al chiarore delle pietre di fuoco verde, sui pavimenti fiammeggianti da riflessi diabolici e macchiati dal rosso ancora più cupo delle vene recise. In quell'interminabile massacro era perita un'intera generazione. Xotalanc era morto molto tempo prima, ucciso in un fiero combattimento lungo una scala d'avorio. Tecutli era stato scorticato vivo dagli inferociti Xotalanchi che lo avevano catturato. Senza la minima emozione, Olmec descrisse le spaventose battaglie combattute nei cupi corridoi, le imboscate sopra le scale tortuose, i massacri. Con un luccichio negli occhi neri, sempre più rosso e più lontano, narrò di uomini e donne che urlavano sotto torture talmente spietate che perfino il barbaro Cimmero ne ebbe disgusto. Non c'era da stupirsi se Tecotl aveva il terrore di essere catturato. Eppure aveva continuato a uccidere, se poteva, spinto da un odio più forte delle sue paure. Olmec seguitò a parlare di cose oscure e misteriose, di magia nera e di stregoneria evocate dalle profondità delle catacombe, di creature diaboliche richiamate dalle tenebre per farsele alleate. In questo gli Xotalanchi erano avvantaggiati, perché era nelle catacombe orientali che giacevano le ossa dei più grandi maghi degli antichi Xutolani, con i loro immemorabili segreti. Valeria ascoltava perversamente affascinata. La faida era diventata una terribile forza elementare che spingeva inesorabilmente la popolazione di Xutol verso la morte e anche l'estinzione. Permeava tutta la loro vita. C'erano nati e si aspettavano di morirci. Non lasciavano mai il loro castello se non per nascondersi nelle sale del silenzio che si trovavano in mezzo ai due fortini rivali per uccidere oppure farsi uccidere. A volte i razziatori tornavano con prigionieri urlanti o con macabre testimonianze di vittoria. A volte non tornavano affatto o fatti a pezzi, pezzi che venivano gettati davanti alle porte di bronzo. Era un'esistenza irreale, da incubo. Segregati dal resto del mondo, come conigli chiusi nella medesima trappola, a massacrarsi reciprocamente per anni, appiattendosi e strisciando nei corridoi bui per mutilare, torturare e assassinare i rivali. Mentre Olmec parlava, Valeria si sentiva addosso lo sguardo penetrante di Tascela. La principessa pareva non udire racconti di Olmec. La sua espressione non rifletteva il selvaggio furore o l'esultanza diabolica che si alternavano sulle facce degli altri Tecutli. La faida, che per quelli del suo clan era una vera ossessione, sembrava non avesse alcuna importanza per lei. Valeria trovava la sua freddezza ancora più repellente della scoperta ferocia di Olmec. «E non possiamo mai lasciare la città! Da 50 anni non esce nessuno!» «Eccetto quelli...» finì col dire Olmec. «Anche se non esistesse il pericolo dei draghi, noi che siamo nati e cresciuti nella città non oseremmo mai lasciarla. Non abbiamo mai messo piede fuori dalle mura. Non siamo abituati al cielo aperto e al sole nudo. No, a Xucotl siamo nati e a Xucotl noi moriremo. Allora, con il vostro permesso, noi preferiamo sfidare i draghi. Questa faida non è affar nostro. Se ci indicherai la porta occidentale, ce ne andremo per i fatti nostri.» Tascela strinse i pugni e fece per parlare, ma Olmec la interruppe. «È quasi sera. Se andrete in giro per la foresta di notte, cadrete certamente nelle grinfie dei draghi. L'abbiamo già attraversata di notte e abbiamo dormito all'aperto senza incontrarli.» Tascela rise con allegria. «Non oserete lasciare Xutol?» Conan la fissò con un'avversione istintiva. Non stava guardando lui, ma la donna che aveva di fronte. «Io penso che oseranno invece. Ma ascoltate, Conan e Valeria, gli dei devono avervi mandati da noi per mettere la vittoria nelle mani dei Tecutli. Voi siete guerrieri professionisti. Perché non combattete per noi? Possediamo molte ricchezze. A Xucotl le pietre preziose abbondano come sassi. Alcune le portarono gli Xutolani da Consala, altri, come le pietre di fuoco, le trovarono sui monti orientali. Aiutateci a sterminare una volta per tutte gli Xotalanchi e noi vi daremo tutte le pietre preziose che riuscirete a portar via. E ci aiuterete a sgominare i draghi? Con degli uomini e delle frecce avvelenate Basterebbero 30 uomini per eliminare tutti i draghi della foresta. Certo! Ma noi abbiamo scordato come si usa un arco in tutti questi anni di combattimento corpo a corpo. Ma certamente possiamo imparare di nuovo. Tu che dici? Volle sapere Valeria rivolgendosi a Conan. Siamo tutti e due dei vagabondi squattrinati. Posso uccidere gli Xotalanchi come ucciderei chiunque. Allora accettate? Certo. E adesso presumo che ci mostrerete le stanze dove potremo dormire, in modo da essere freschi domani per dare inizio al massacro. Olmec annuì, e a un suo cenno Tecotl e una donna guidarono i due avventurieri per un corridoio a cui dava accesso una porta alla sinistra del trono di Giada. Uno sguardo alle spalle mostrò a Valeria Olmec seduto sul seggio, con il mento appoggiato sulla mano, che li seguiva con lo sguardo. Nei suoi occhi ardeva una fiamma diabolica. Tashela si appoggiò al trono, sussurrando qualcosa alla ragazza dalla faccia cupa, Yasala, la quale si accostò alla principessa per ascoltare quello che le mormorava la padrona. Il corridoio non era largo come gran parte di quelli che avevano attraversato, però era lungo. Dopo un po' la donna si fermò, aprì una porta e si fece da parte per far entrare Valeria. «Aspetta un attimo, e io dove dormo?» Tecotl gli indicò una camera dall'altra parte del corridoio, una porta più giù. Conan esitava e stava sul punto di fare obiezione, quando Valeria gli sorrise sdegnosa e gli chiuse la porta in faccia. Il cimmero borbottò qualcosa contro le donne in generale e proseguì sul corridoio dietro Tecotl. Una volta entrato nella camera decorata destinatagli, alzò gli occhi verso i lucernari. Alcuni erano abbastanza larghi da consentire il passaggio di un uomo magro, ipotizzando sempre di riuscire a rompere quel vetro. «Perché gli Xotalanchi non salgono sui tetti e non rompono quei lucernari?» «Non si possono rompere! Inoltre sarebbe difficile arrampicarsi sui tetti. Sono quasi tutte guglie e cupole!» Gli fornì di sua iniziativa altre informazioni sul castello dei Tecutli. Come il resto della città, comprendeva quattro piani o file di stanze, con torri che spuntavano dal tetto. Ogni piano aveva un nome, anzi, la popolazione di Xucotl aveva un nome per ogni stanza, sala e scala della città, esattamente come gli abitanti di città più normali danno un nome alle strade e ai quartieri. A Tecutli i piani avevano i seguenti nomi: quello dell'aquila, quello della scimmia, quello della tigre e quello del serpente, in quest'ordine preciso. Il piano dell'aquila, difatti, era il quarto. «Dimmi, Tecotl, chi è Tashela? È forse la moglie di Olmec?» Tecotl tremò e si guardò intorno con circospezione prima di rispondere. «No, lei è Tashela! Era la moglie di Xotalanc, la donna che Tecutli rapì dando inizio alla faida!» «Che stai dicendo? Quella donna è bella e giovane! Vorresti dirmi che era sua moglie 50 anni fa?» «Sì, lo giuro! Era già donna quando i Tlazitlani partirono dal lago Zuad. Il motivo per cui Xotalanc e suo fratello si ribellarono e fuggirono era che il re della Stigia la voleva come concubina. Ella è una strega e conosce il segreto dell'eterna giovinezza!» «E qual è?» Tecotl tremò di nuovo di paura. «Io non chiedermelo! Non oso dirlo! È troppo spaventoso anche per Xucotl!» Quindi, portandosi un dito alle labbra, scappò dalla stanza. Quattro. Profumo di loto nero. Valeria slacciò il cinturone della spada e lo posò insieme all'arma sul letto dove si disponeva a coricarsi. Notando che tutte le porte avevano il catenaccio, domandò dove conducessero. La donna che l'accompagnava disse che le stanze portavano in altre stanze adiacenti e una in particolare si apriva su un corridoio che arrivava fino a una scala per scendere alle catacombe. Ma Valeria non doveva temere, perché lì dentro non poteva succedere nulla. «E chi ha detto che ho paura? Volevo soltanto sapere in che specie di porto ho ancorato la nave. No, non voglio che tu dorma ai piedi del mio letto. Non sono abituata ad essere servita. Non da una donna, almeno. Hai il permesso di andartene. Una volta sola nella camera, la pirata tirò il catenaccio a tutte le porte, si sfilò gli stivali e si sdraiò languidamente sul divano. Pensò a Conan, che si trovava nella medesima situazione dall'altra parte del corridoio. La sua vanità femminile glielo faceva immaginare furioso di collera per l'umiliazione mentre si buttava sul letto solitario e, preparandosi a dormire, sorrise maliziosamente. Fuori era scesa la notte. Nelle sale di Xutol le pietre di fuoco verde scintillavano come occhi di gatto preistorici. In qualche punto tra le torri il vento notturno gemeva senza posa. Nei corridoi bui cominciavano ad appostarsi loschi figuri, appiattiti come ombre. Valeria si svegliò di soprassalto. Alla luce cupa color smeraldo vide una figura in ombra che si chinava su di lei. Per un istante l'apparizione le parve parte del sogno che stava facendo. Le era sembrato di essere sdraiata sul letto della stanza in cui si trovava, mentre sopra di lei pulsava un fiore nero gigantesco, talmente immenso da nascondere il soffitto. Il suo profumo esotico le entrava dentro, inducendole un piacevole senso di languore che non era semplice sonno. Stava per essere sommersa da ondate di beatitudine e di piacere, quando qualcosa le sfiorò il viso. I suoi sensi narcotizzati erano talmente suscettibili che quel tocco leggero fu come un impatto brutale che la fece tornare con violenza alla coscienza. E allora, davanti a lei, al posto del fiore gigante, vide una donna dalla pelle scura. Non appena capì, si infuriò di collera e passò all'azione. La donna si voltò velocemente, ma prima che potesse correre via, Valeria era già in piedi e l'aveva afferrata per il braccio. Per qualche secondo quella lottò come un gatto selvatico, poi quando si sentì schiacciata dalla forza superiore della sua catturatrice si arrese. La pirata fece voltare la donna per vederla in faccia, afferrandole il mento con la mano libera per costringerla a guardarla negli occhi. Era la cupa Yasala, la serva di Tascela. «Che diavolo facevi, china sopra di me? Che cosa hai in mano?» La donna non rispose e cercò di nascondere l'oggetto. Valeria le torse il braccio e quello cadde sul pavimento. Un grosso fiore esotico nero su uno stelo verde giada, grande come la testa di una donna, ma minuscolo rispetto all'immagine gigantesca che aveva visto in sogno. Il loto nero. Il fiore il cui profumo induce un sonno profondo. Volevi drogarmi! Se non mi avessi sfiorato accidentalmente il viso con i petali, avresti... Perché lo facevi? A che gioco stai giocando? Yasala restava in ostinato silenzio e con un'imprecazione Valeria la fece voltare, l'obbligò a mettersi in ginocchio e le bloccò un braccio contro la schiena. «Dimmelo, altrimenti ti spezzo il braccio!» Yasala si contorse dal dolore, mentre Valeria le tirava violentemente il braccio contro le scapole, ma la sua unica risposta fu un violento diniego col capo. «Disgraziata!» Valeria la buttò sul pavimento, poi la osservò con due occhi fiammeggianti. La paura e il ricordo degli occhi brucianti di Tascela risvegliavano in lei l'istinto felino di autoconservazione. Quel popolo era in decadenza. Ci si poteva aspettare qualunque genere di perversità da quella gente. Valeria, tuttavia, intuiva che c'era qualcosa dietro il sipario, un terrore misterioso più folle della semplice degenerazione. Provò paura e repulsione verso quella città diabolica. Quella gente non era né sana di mente né normale, anzi, cominciava anche a dubitare che fosse umana. Avevano tutti uno sguardo folle, tutti eccettuati gli occhi enigmatici e crudeli di Tascela che celavano segreti e misteri più abissali della pazzia. Valeria sollevò la testa e si mise in ascolto. I corridoi di Xutol erano silenziosi come se fosse davvero una città morta. Le pietre verdi rischiaravano la stanza con il loro bagliore da incubo e alla loro luce gli occhi della donna distesa sul pavimento emettevano un luccichio malvagio. Valeria si sentì assalire dal panico e quell'ultimo vestigio di pietà che le rimaneva scomparve dal suo spirito fiero. «Perché volevi drogarmi?» sibilò, afferrando la donna per i capelli e costringendola a sollevare la faccia per poterla guardare in quegli occhi cupi dalle lunghe ciglia. «Ti ha mandata Tascela?» Ancora nessuna risposta. Valeria imprecò con violenza e dette alla donna uno schiaffo su una guancia e poi uno sull'altra. I colpi echeggiarono nella camera, ma Yasala non emise nemmeno un grido. Perché non gridi? Temi che qualcuno ti senta? Di chi hai paura? Di Tashela? Di Olmec? Di Conan? Yasala non rispose. Stava rannicchiata sul pavimento e fissava la sua catturatrice con due occhi malevoli come quelli di un basilisco. Valeria si girò e strappò i cordoni dalle tende vicine. «Lurida sgualdrina! Ho intenzione di spogliarti completamente nuda e di legarti a quel letto e poi di frustarti finché non mi dirai che cosa facevi qui e chi ti ha mandata!» Yasala non fece la minima protesta né oppose resistenza, mentre Valeria metteva in pratica la prima parte della minaccia con una furia che l'ostinazione della prigioniera non faceva altro che riattizzare. Poi per un po' non si sentì nessun rumore nella stanza, oltre al sibilo e allo schiocco delle corde di seta sulla pelle nuda. Yasala non poteva muovere né le mani né i piedi. Il suo corpo si torceva e sussultava sotto la sferza della castigatrice e la sua testa si spostava da una parte all'altra al ritmo delle frustate. Si mordeva il labbro inferiore con i denti e mentre la punizione continuava le uscì un rivoletto di sangue dalla bocca, ma non emise un solo lamento. Le corde di seta facevano poco rumore quando colpivano il corpo tremante della prigioniera. Si sentiva soltanto uno schiocco secco, ma ogni corda lasciava una stria rossa sulla pelle scura di Yasala. Valeria le infliggeva la punizione con tutta la forza del braccio allenata dalle battaglie, con tutta la crudeltà acquisita in una vita in cui il dolore e il tormento erano all'ordine del giorno e con tutto il cinismo che soltanto una donna può mostrare verso un'altra donna. Yasala soffriva di più, sia fisicamente che mentalmente, di quanto avrebbe sofferto sotto le frustate di un uomo, e questo era davvero folle. Fu questo cinismo femminile che alla fine domò Yasala. Le sfuggì un gemito dalle labbra e Valeria si fermò, restando col braccio sollevato, e mandò all'indietro una ciocca di capelli biondi. «Allora ti sei decisa a parlare?» «Posso continuare anche per tutta la notte, se è necessario!» La donna chiese pietà e disse che avrebbe detto tutto. Valeria le tolse i legami ai polsi e alle caviglie e la fece mettere in piedi. Yasala cadde sul letto, appoggiandosi su un fianco nudo e sorreggendosi su un braccio, perché il contatto della pelle martoriata con la stoffa la faceva torcere dal dolore. Tremava dalla testa ai piedi. Con le labbra secche implorò del vino, indicando con una mano tremante una coppa d'oro posata sul tavolo d'avorio. Chiese da bere perché il dolore la rendeva debole e dopodiché avrebbe detto tutto. Valeria prese la coppa e Yasala tese immediatamente il braccio. Afferrò il calice, lo portò alle labbra e poi scaraventò il contenuto in faccia all'aquiloniana. Valeria indietreggiò, scuotendo la testa e cercando di togliersi il liquido pungente dagli occhi. In un velo di nebbia vide Yasala che si lanciava nella camera, toglieva un catenaccio, apriva la porta di rame e correva per il corridoio. La pirata le fu dietro in un istante, la spada in pugno e la vendetta in cuore. Ma Yasala era in vantaggio e correva con l'agilità di una donna che è stata appena frustrata fino al punto dell'isterismo. Girò un angolo a qualche metro da Valeria e quando la pirata arrivò trovò soltanto una sala deserta e una porta spalancata dall'altra parte del corridoio. Da questa proveniva un odore umido e polveroso e Valeria ebbe un brivido. Quello doveva essere il passaggio che portava alle catacombe. Yasala si era rifugiata tra i morti. Valeria avanzò fino alla porta e vide una fila di gradini di pietra che svanivano immediatamente nelle tenebre totali. Evidentemente era una scala per arrivare direttamente alle cisterne sotto la città, senza passare per i piani inferiori. Ebbe un leggero brivido a pensare alle migliaia di corpi che giacevano nelle loro cripte di pietra, avvolti nei loro sudari polverosi. Non aveva intenzione di scendere a tentoni per quella scala di pietra. Yasala conosceva di sicuro ogni svolta e ogni gomito di quelle gallerie sotterranee. Valeria stava tornando indietro, scornata e furiosa, quando nel buio si udì un urlo straziante. Sembrava venire da grande profondità, ma le parole umane erano distinguibili e la voce apparteneva a una donna. Implorava aiuto in nome di Set e poi lanciò un urlo. La voce si spense e Valeria ebbe l'impressione di udire l'eco di una risata raccapricciante. Si sentì accapponare la pelle. Cosa era successo a Yasala in quelle oscure profondità? Era indubbio che fosse stata lei a gridare, ma in quale pericolo era caduta? Aveva trovato un oxotolanco nascosto laggiù? Olmec gli aveva assicurato che le catacombe sotto Tecutli erano separate dal resto da un muro troppo resistente perché i nemici provassero a sfondarlo. Inoltre, quella risata sembrava non avere niente di umano. Valeria si affrettò a ripercorrere il corridoio senza fermarsi a chiudere la porta aperta sulle scale. Raggiunta la sua camera, chiuse la porta e tirò il catenaccio. Si infilò gli stivali e si allacciò la spada alla vita. Era decisa ad andare in camera di Conan per pregarlo, sempre che fosse ancora vivo, di unirsi a lei in un tentativo di fuga da quella città infernale. Ma nell'attimo stesso in cui arrivava davanti alla porta che dava sul corridoio, un lungo grido di agonia risuonò nelle sale, seguito da un calpestio di piedi che correvano e da un fragoroso cozzo di spade. Cinque. 20 chiodi rossi. Due guerrieri facevano la guardia al piano dell'Aquila. Erano tranquilli, anche se vigili. Un assalto alla grande porta di bronzo era sempre possibile, ma erano anni che nessuna delle due fazioni tentava attacchi del genere. Gli stranieri sono potenti alleati. Olmec muoverà contro il nemico domani, secondo me. Parlava come un soldato in guerra. Nel mondo in miniatura di Xutol, un pugno di avversari era un esercito e le sale deserte che separavano i due castelli erano il territorio sul quale veniva combattuta la guerra. L'altro ci pensò sopra. «Immagina che con il loro aiuto distruggiamo Xotalanc. Che cosa succederà poi, Xatmec?» «Beh, pianteremo chiodi rossi per tutti. I prigionieri li bruceremo, li flagelleremo o li squarteremo». «Sì, ma dopo, una volta che li avremo uccisi tutti, non ci sembrerà strano non avere più nemici da combattere? Per tutta la vita ho odiato e combattuto gli Xotalanchi. Quando la faida finirà, che cosa resterà?» Xatmec alzò le spalle. I suoi pensieri non erano mai andati oltre la distruzione dei loro nemici. Non potevano andare oltre. Improvvisamente, tutti e due si irrigidirono sentendo un rumore fuori dalla porta. «Alla porta, Xatmec! Io guarderò dall'occhio!» Xatmec, con la spada in pugno, si appoggiò alla porta di bronzo, spiando ogni rumore attraverso il metallo. Il suo compagno guardò nello specchio e sobbalzò. C'era un gruppo di uomini ammucchiati contro la porta, uomini dalle facce fosche e scure con le spade fra i denti e le dita infilate dentro le orecchie. Uno che portava un copricapo piumato aveva alla bocca una cornamusa e non appena i Tecutli aprì le labbra per lanciare l'allarme, le canne dello strumento cominciarono a zufolare. Il grido gli morì in gola non appena il suono stridulo e misterioso penetrò attraverso il metallo e gli stordì le orecchie. Xatmec rimase incollato alla porta, come paralizzato in quella posizione. Aveva la faccia immobile e lo sguardo terrorizzato. L'altra guardia, che non si trovava direttamente vicino alla fonte del suono, avvertiva lo stesso l'orrore di quello che stava succedendo, la cupa minaccia che vibrava in quello zufolio diabolico. Sentiva come se quelle strane note gli staccassero il tessuto del cervello con ditini invisibili, riempiendolo di emozioni sconosciute e impulsi folli. Con uno sforzo sovrumano, però, riuscì a vincere l'effetto dell'incantesimo e allora chiamò l'allarme con una voce che non gli sembrava la sua. Mentre urlava, tuttavia, la musica si trasformò in un suono acuto, insopportabile, lacerante come un coltello dentro le orecchie. Xatmec gridò di dolore e, come una fiamma spenta dal vento, dal suo viso scomparve ogni barlume d'intelligenza. Come un pazzo sciolse la catena, spalancò la porta e corse dentro la sala con la spada alzata prima che il compagno potesse fermarlo. Venne infilzato da 12 spade e gli Xotalanchi, passando sopra il suo corpo martoriato, irruppero nel corridoio di guardia con un urlo selvaggio e sanguinario che echeggiò dappertutto. Riavutosi dallo shock, l'altra guardia impugnò la lancia per affrontare i suoi avversari. L'orrenda stregoneria di cui aveva appena assistito passava in secondo piano rispetto a quello che stava succedendo. Il nemico era dentro Tecutli. e quando la punta della sua lancia trapassò un ventre dalla pelle scura, egli non capì più niente, perché una spada roteante gli spaccò il cranio, mentre i guerrieri dagli occhi selvaggi accorrevano da tutte le sale dietro il posto di guardia. Furono le urla degli uomini e il fragore dell'acciaio a far saltare Conan dal letto, ancora intontito dal sonno, ma con la spada in mano. In un attimo arrivò alla porta e la spalancò, lanciandosi nel corridoio proprio mentre arrivava correndo Tecotl con uno sguardo folle. «Ixotalanchi! Sono dentro la porta!» Conan corse per il corridoio e nel frattempo Valeria usciva dalla sua camera. «Che diavolo succede?» «Tecotl dice che gli Xotalanchi sono qui e da questo fracasso direi che questo è vero!» Con il Tecutli che li seguiva, irruppero nella sala del trono e si trovarono davanti una scena di sangue e di ferocia che travalicava anche il sogno più assurdo. 20 uomini e donne con i capelli neri al vento e i teschi bianchi sul petto erano avvinghiati in una lotta mortale con la gente di Tecutli. Le donne di entrambe le fazioni combattevano come uomini e la sala e il corridoio esterni erano già cosparsi di cadaveri. Olmec, completamente nudo, tranne le brache, combatteva davanti al trono e non appena i due avventurieri entrarono, da una camera interna arrivò correndo Tascela con la spada in mano. Xatmec e il suo compagno erano morti, per cui non c'era nessuno che potesse dire ai Tecutli in che modo i nemici fossero riusciti a entrare nella cittadella e nessuno sapeva che cosa li avesse spinti a quell'azione temeraria. Ma le perdite subite dagli Xotalanchi erano maggiori e la loro posizione non era mai stata tanto disperata. La mutilazione del loro scaglioso alleato, la distruzione del teschio lucente e le notizie portate da un uomo morente che due misteriosi alleati bianchi si erano uniti ai loro nemici li avevano portati alla follia della disperazione e alla determinazione di voler morire seminando morte tra i loro antichi nemici. I Tecutli, riavutosi dalla sorpresa iniziale dell'assalto che aveva disseminato la sala del trono di cadaveri, adesso rispondevano ai colpi con la medesima furia disperata, mentre le guardie appostate davanti alle porte dei piani inferiori accorrevano di corsa e si buttavano nella mischia. Pareva un combattimento all'ultimo sangue tra lupi che si azzannavano alla cieca, ansimanti e spietati. L'onda si spostava avanti e indietro, dalla porta ai troni, con le lame che roteavano e si piantavano nella carne, con il sangue che schizzava e i piedi che calpestavano il pavimento cremisi dove si stavano formando pozze di sangue più rosse. I tavoli d'avorio venivano rovesciati per terra, le sedie spaccate in due, le tende di velluto strappate. Era il culmine sanguinario di mezzo secolo di crudeltà e tutti lo avvertivano. Ma la conclusione era inevitabile. I Tecutli erano superiori di 2-1 rispetto agli invasori ed erano eccitati dall'arrivo nella mischia dei loro alleati dalla pelle chiara. Questi colpivano con la furia devastante di un uragano su un boschetto d'alberelli. Neanche 3 Trazitlani messi insieme erano un avversario degno di Conan e malgrado la sua mole, il cimmero era più veloce di chiunque di loro. Si muoveva nella mischia con la sicurezza e la distruttività di un lupo grigio tra i cuccioli suoi alleati, seminando cadaveri. Valeria combatteva al suo fianco con le labbra sorridenti e gli occhi fiammeggianti. Era più forte di un uomo normale e molto più veloce e più spietata. La spada pareva viva nella sua mano. Laddove Conan sgominava l'avversario con la forza bruta e la potenza dei colpi, spezzando lance, spaccando crani e squarciando petti, Valeria ricorreva un'incredibile scaltrezza nel maneggiare la spada che sconcertava e confondeva l'antagonista prima ancora di ucciderlo. Più volte un guerriero che aveva sollevato la spada si ritrovò alla gola la punta della lama di lei che gli recideva la giugulare senza lasciargli il tempo di colpire. Conan, il più alto in campo, colpiva a destra e a sinistra, mentre Valeria si muoveva come un fantasma sfuggente, spostandosi in continuazione, affondando e colpendo mentre cambiava posizione. Le spade la mancavano e gli aggressori colpivano l'aria e morivano con il cuore trafitto o la gola squarciata, udendo la sua risata beffarda negli orecchi. Sesso e condizioni non avevano importanza per i combattenti. Le 5 donne Xotalanche erano state sgozzate prima che Conan e Valeria entrassero nella mischia e quando un uomo o una donna finiva sotto i piedi di qualcuno c'era sempre un coltello pronto a recidere la sua gola in difesa oppure un sandalo pronto a schiacciargli il cranio. La lotta si spostava a ondate da muro a muro, da porta a porta, riversandosi nelle camere adiacenti, e alla fine soltanto i Tecutli e i loro alleati dalla pelle bianca rimasero ancora in piedi nella grande sala del trono. I superstiti si fissarono ammutoliti l'un l'altro come sopravvissuti al giorno del giudizio o alla fine del mondo. A gambe piantate, con le spade gocciolanti ancora in pugno e rivoli di sangue che scorrevano giù per le braccia, si guardarono al di sopra dei corpi martoriati di amici e nemici. Non gli era rimasto più fiato per gridare, ma dalle loro labbra salì un urlo bestiale e ululante. Non era un grido umano di trionfo, era l'ululato di un branco di lupi idrofobi che si aggirava tra i corpi delle vittime. Conan afferrò Valeria per un braccio e la fece girare. «Valeria, hai una ferita al polpaccio!» Valeria si guardò le gambe, rendendosi conto per la prima volta che le doleva il muscolo. Un uomo morente sul pavimento, in un ultimo sforzo, le aveva piantato il pugnale nel polpaccio. «E tu sembri un macellaio!» rise lei. Lui scosse le mani e da questa cadde una pioggia rossa. «Non è sangue mio!» «Sì, ho qualche graffio qui e là, ma niente di serio. Quel polpaccio, invece, dovrebbe essere bendato.» Olmec venne avanti tra i cadaveri che ingombravano il pavimento. Sembrava uno spettro, con quelle spalle nude e massicce ricoperte di sangue e la barba nera bagnata di macchie cremisi. I suoi occhi erano rossi come il riflesso delle fiamme sull'acqua nera. «Abbiamo vinto! La faida è finita! I Canix Otalanchi sono morti!» «Ah, se potessi avere con me un prigioniero da scuoiare vivo! Ma è bello lo stesso guardare le loro facce da mummia! 20 cani morti! 20 chiodi rossi per la colonna nera! Faresti meglio a pensare ai tuoi feriti, Olmec! Ragazza, vieni qui! Voglio vedere quella gamba!» «Aspetta un attimo! Come facciamo a sapere che sono tutti morti? Questi qui potrebbero aver tentato un assalto di loro iniziativa!» «Non avrebbero diviso il clan per un'incursione come questa. Scommetto la testa che li abbiamo uccisi tutti. Erano meno di quel che immaginavo e dovevano essere disperati. Ma come sono entrati a Tecutli?» Tascela venne avanti, asciugandosi la spada sulla coscia nuda, mentre nell'altra mano teneva un oggetto che aveva preso al cadavere del capo degli Xotalanchi, quello con il cappello piumato. «Le pive della follia. Un guerriero mi ha detto che Xatmec ha aperto la porta agli Xotalanchi ed è stato ucciso quando questi hanno fatto irruzione nel corridoio di guardia. Questo guerriero è arrivato dalla sala interna appena in tempo per vedere che cosa accadeva e per sentire le ultime note di una strana musica che gli ha ghiacciato l'anima. Tolkemec parlava spesso di queste pive, che gli Xotalanchi giuravano di aver nascosto nelle catacombe insieme alle ossa dell'antico mago che vi faceva ricorso quando era in vita. I cani di Xotalang devono essere riusciti a trovarle e hanno appreso il loro segreto.» «Io direi che dei volontari dovrebbero andare a Xotalang a vedere se c'è rimasto qualcuno ancora vivo. Io sono disposto a farlo, se c'è qualcuno che mi farà da guida.» Olmec guardò i superstiti. Erano rimasti soltanto in 20 e tra questi alcuni erano ancora a terra e gemevano per le ferite. Tascela era l'unica tra i Tecutli a essere completamente illesa. Nonostante avesse combattuto selvaggiamente come gli altri, non aveva neanche un graffio. «Chi vuole andare con Conan a Xotalank?» domandò loro Olmec. Tecotl si fece avanti zoppicando. La ferita alla coscia aveva ripreso a sanguinargli e aveva un altro squarcio alle costole. «Ci vado io!» «No, tu no, Tecotl. E neanche tu, Valeria. Tra un po' quella gamba diventerà rigida.» «Andrò io!» si offrì un guerriero che si stava fasciando l'avambraccio ferito. «Molto bene, Yanat! Tu vai col cimmero! E anche tu, Topal!» Olmec indicò un altro uomo che aveva ferite leggere. «Prima però aiutate a sollevare i feriti gravi e metteteli su questi divani, in modo che possiamo curarli.» L'ordine venne eseguito rapidamente. Mentre si chinavano per sollevare una donna che era stata tramortita da una mazza, la barba di Olmec solleticò l'orecchio di Topal. Conan ebbe l'impressione che il principe stesse bisbigliando qualcosa al guerriero, ma non poteva averne la certezza. Un attimo dopo stava guidando i suoi compagni per il corridoio. Mentre varcava la porta, Conan si voltò a guardare quel luogo di carneficina, i morti che giacevano sul pavimento fiammeggiante, con le membra scure macchiate di sangue, rimaste contratte sotto lo sforzo dei muscoli, con le facce scure tramutate in maschere d'odio, gli occhi vitrei rivolti verso le pietre di fuoco verde che inondavano di luce cupa, smeraldina e stregata, quella scena macabra. In mezzo ai morti, i vivi si muovevano attoniti, come in trance. Conan udì Olmec chiamare una donna e ordinarle di fasciare la gamba di Valeria. La pirata seguì la donna in una camera adiacente, cominciando già a zoppicare leggermente. Con estrema circospezione, i due tecutli guidarono Conan per il corridoio oltre la porta di bronzo e poi di sala in sala, dove scintillava il fuoco verde. Non videro nessuno e non udirono il minimo suono. Quando attraversarono la sala grande che divideva la città nord dalla città sud, la loro cautela venne accresciuta dalla consapevolezza di essere vicini al territorio nemico. Ma i corridoi e le sale parevano deserti e alla fine giunsero in un grande atrio buio e si fermarono davanti a una porta di bronzo simile alla porta dell'aquila di Tecutli. Guardinghi provarono ad aprirla e quella si aprì silenziosamente alla loro pressione. Impauriti, si affacciarono nelle stanze illuminate di verde che si trovavano al di là. Da 50 anni non entrava un Tecutli in quelle sale, se non come prigioniero trascinato verso un destino orrendo. Entrare a Xotalanc era il massimo dell'orrore che potesse capitare a un uomo del castello occidentale. Era un'eventualità che lo terrorizzava nei sogni fin da bambino. Per Yanat e Topal, quella porta di bronzo era l'ingresso dell'inferno. Indietreggiarono con gli occhi colmi di un terrore irrazionale e Conan passò in mezzo a loro ed entrò in Xotalanc. I due lo seguirono timidamente. Non appena misero piede sulla soglia, si guardarono freneticamente intorno, ma soltanto il loro respiro accelerato turbava quel silenzio. Si trovavano in un corpo di guardia quadrato simile a quello della porta dell'aquila di Tecutli e similmente un corridoio conduceva da questo a una grande sala che corrispondeva alla sala del trono di Olmec. Conan guardò i tappeti, i divani e i tendaggi che ornavano l'ambiente e si fermò ad ascoltare attentamente. Non udì rumori e le stanze sembravano vuote. Non riteneva probabile che ci fossero superstiti a Xucotl. «Proseguiamo!» mugugnò e si avviò per il corridoio. Non aveva fatto molti passi quando si rese conto che soltanto Yanat lo seguiva. Si girò come un fulmine e vide Topel in un atteggiamento di terrore, con un braccio teso come per difendersi da un minaccioso pericolo e gli occhi ipnoticamente fissi su qualcosa che sporgeva da dietro un divano. «Che diavolo!» Poi anche Conan vide che cosa stava fissando Topel e sentì un leggero brivido tra le gigantesche scapole. Da dietro il divano usciva una testa mostruosa di rettile, grossa come la testa di un coccodrillo, con due zampe ricurve che sporgevano dalla mascella inferiore. Ma l'animale aveva una rigidità innaturale e i suoi occhi terribili erano vitrei. Conan andò a guardare dietro il divano. Si trattava di un grosso serpente stecchito come una mummia, ma non aveva mai visto una bestia simile in tutti i suoi vagabondaggi. Emanava il fetore e il gelo delle viscere nere della terra e il colore della pelle cambiava continuamente a seconda dell'angolo dal quale lo si guardava. Una grossa ferita al collo indicava la causa della morte. «È la creatura strisciante!» «È la cosa che ho colpito con la spada sulle scale!» Dopo averci seguito fino alla porta dell'Aquila, si è trascinata qui ed è venuta a morire. Come facevano gli Xotalanchi a controllare una bestia simile, io non lo so. I due Tecutli rabbrividirono e scossero la testa. L'avevano portata quassù dalle gallerie buie che corrono sotto le catacombe. Avevano scoperto segreti a noi ignoti. Bene, adesso è morta. E se ce ne fossero state altre, le avrebbero portate con loro quando hanno attaccato Tecutli. «Ora proseguiamo!» I due gli si incollarono alle calcagna mentre percorreva a grandi passi il corridoio e spingeva la porta dagli intarsi d'argento che si trovava dall'altra parte. «Se non troviamo nessuno su questo piano, dovremo scendere a quelli inferiori. Setacceremo Xotalanc dalla cima del tetto alle catacombe. Sexotalan che come Tecutli, tutte le stanze e i corridoi saranno illuminati. Che diavolo! Erano arrivati alla grande sala del trono, la quale era quasi perfettamente identica a quella di Tecutli. C'erano lo stesso seggio di giada e lo stesso trono d'avorio, gli stessi divani, gli stessi tappeti e gli stessi tendaggi. Mancava soltanto la colonna nera con le scalfiture rosse dietro la predella del trono, ma si vedevano ugualmente testimonianze della violenta faida. Lungo il muro, dietro al trono, erano allineati dei ripiani coperti da lastri di vetro e su questi ripiani centinaia di teste umane, perfettamente conservate, fissavano gli esterrefatti spettatori con occhi imperturbabili e soltanto gli dèi sapevano da quanti mesi o quanti anni. Topal imprecò a mezza bocca. Yanat invece rimase in silenzio, con una luce folle negli occhi. Conan si accigliò, perché sapeva che l'equilibrio mentale degli Tlazitlani era appeso un filo. All'improvviso Yanat indicò le macabre reliquie con un dito tremante. «Quella è la testa di mio fratello e quell'altra del fratello minore di mio padre e là dietro c'è quella del figlio maggiore di mia sorella!» Improvvisamente cominciò a piagnucolare con gli occhi asciutti, scosso da violenti singhiozzi. Non riusciva a staccare lo sguardo da quelle teste. I suoi singhiozzi divennero singulti, poi si trasformarono in una terrificante risata stridula e infine in un urlo insopportabile. Yanat era impazzito. Conan gli posò una mano sulle spalle e come se quel tocco avesse liberato tutta la rabbia racchiusa nel suo spirito, Yanat si voltò di scatto con un grido e colpì il cimmero con la spada. Conan parò il colpo e Topal cercò di bloccare il braccio di Yanat. Il folle però riuscì a sfuggirgli e con la bava alla bocca trapassò il petto di Topal con la spada. Topal si accasciò a terra con un gemito e Yanat ruotò per un attimo su se stesso come un derviscio impazzito. Poi corse ai ripiani e cominciò a rompere il vetro con la spada, urlando bestemmie. Conan gli fu alle spalle, cercando di coglierlo alla sprovvista per disarmarlo, ma il folle si voltò e gli si avventò contro con la spada, strillando come un'anima dannata. Vedendo che il guerriero non sarebbe mai più rinsavito, il cimmero si spostò di lato e mentre il maniaco colpiva l'aria, gli assestò un fendente che gli staccò di netto la clavicola e il petto, facendolo cadere accanto al corpo del compagno morente, sua vittima. Conan si chinò su Topal, sapendo che quelli erano i suoi ultimi istanti di vita. Era inutile tentare di fermare il sangue che sgorgava a fiotti dall'orribile ferita. «Sei spacciato, Topal. Vuoi lasciare un messaggio per i tuoi cari?» «Avvicinati di più!» ansimò Topal, e Conan lo fece. Un attimo dopo, il cimero fu costretto a bloccargli il polso per impedirgli di pugnalarlo al petto. «Per Crom, sei impazzito anche tu?» «L'ha ordinato Olmec, non so perché!» «Mentre sollevavamo i corpi dei feriti sui divani, mi ha sussurrato all'orecchio di ucciderti, non appena tornavamo a Tecutli!» E con il nome del suo clan sulle labbra, Topal esalò il suo ultimo respiro. Conan lo guardò perplesso. Tutta quella faccenda sprigionava un alone di mistero. Anche Olmec era pazzo! Tutti i Tecutli erano più pazzi di quello che pensava?» Con una scrollata di spalle, ripercorse velocemente il corridoio e varcò la porta di bronzo, lasciando i due Tecutli davanti agli occhi impassibili delle teste dei loro parenti morti. A Conan non occorrevano guide per ritrovare la strada nel labirinto che avevano appena percorso. Il suo senso d'orientamento primitivo lo condusse infallibilmente nella direzione giusta. Attraversò i corridoi con la medesima cautela di prima, con la spada in mano, cercando pericoli nascosti in ogni anfratto e in ogni angolo, perché adesso erano i suoi antichi alleati che egli temeva e non gli spiriti degli Xotalanchi defunti. Aveva attraversato la sala grande ed era entrato nelle stanze dall'altra parte, quando udì muoversi qualcosa davanti a lui, qualcosa che rantolava e gemeva, producendo uno strano rumore strisciante. Un attimo dopo, Conan vide un uomo che si trascinava sopra il pavimento fiammeggiante e andava verso di lui lasciando una striscia di sangue. Era Tecotl e il suo sguardo era già vitreo. Si teneva una mano premuta contro la ferita profonda che aveva al petto, dalla quale fiottava sangue. con l'altra mano si trascinava sul pavimento. Conan! Conan! Olmec ha preso la donna dai capelli biondi! Ecco perché ha ordinato a Topal di uccidermi. Olmec non è così pazzo come credevo. Brancolando con le dita, Tecotl riuscì ad afferrare il braccio di Conan. Nella vita fredda, priva di amore e al tempo stesso orribile di Tecutli, l'ammirazione e l'affetto che nutriva per gli invasori giunti dal mondo esterno erano una calda oasi, un legame con un'umanità più normale che ai suoi mancava completamente, perché gli unici sentimenti che riusciva a provare la sua razza erano odio, libidine e sadica crudeltà. «Ho cercato di contrastarlo, ma lui mi ha colpito! Credeva di avermi ucciso!» Ma io sono riuscito ad allontanarmi strisciando. Ah, Seth, quanto mi sono trascinato nel mio stesso sangue. Stai attento, Conan. Olmec potrebbe averti teso un'imboscata. Uccidilo! È una bestia. Prendi la tua Valeria e fuggi. Non temere di riattraversare la foresta. Olmec e Tascela vi hanno mentito sui draghi. Si sono sbranati l'un l'altro diversi anni fa, tutti tranne il più forte. Da una decina d'anni ce n'era soltanto uno. Se tu l'hai ucciso, non ci sono più pericoli nella foresta. Quello era il dio adorato da Olmec. E Olmec gli tributava sacrifici umani. I più vecchi e i più giovani di noi, gettandoli legati dalle mura. Affrettati, Conan! Olmec ha portato Valeria alla camera della... La sua testa ciondolò e Tecotl morì prima che battesse sul pavimento. Conan balzò in piedi con gli occhi ardenti come tizzoni. Dunque era questo il gioco di Olmec: prima usare gli stranieri per sbaragliare i suoi nemici e poi... Avrebbe dovuto immaginarlo che nella mente di quel degenerato stava covando qualcosa del genere. Il cimmero si avviò verso Tecutli a passo deciso. Calcolò rapidamente il numero rimasto dei suoi antichi alleati. Soltanto 21, compreso Olmec, erano sopravvissuti alla sanguinosa battaglia combattuta nella sala del trono. Poi ne erano morti 3, per cui restavano in totale 17 nemici da tenere in conto. Con tutta la collera che gli ribolliva in petto, Conan si sentiva capace di eliminare l'intero clan con una mano sola. Ma l'astuzia innata del primitivo riuscì a dominare la sua rabbia cieca. Ricordò che Tecotl l'aveva messo in guardia da un'imboscata. Era molto probabile che il principe avesse predisposto quell'espediente in caso Topal avesse fallito nel suo compito. Olmec si sarebbe aspettato che tornasse per la stessa strada fatta all'andata. Conan alzò la testa verso il lucernario sotto il quale stava passando e vide brillare fiocchiamente le stelle. Le prime luci dell'alba non le avevano ancora fatte sparire. Gli avvenimenti di quella notte si erano susseguiti in un tempo relativamente breve. Deviando dal percorso che lo avrebbe portato direttamente alla sala del trono, scese per una scala al piano inferiore. Ignorava dove si trovassero le porte d'accesso al castello a quel livello, ma era sicuro che ne avrebbe trovata una. Come avrebbe fatto a forzare le serrature, non lo sapeva. Credeva che tutte le porte di Tecutli fossero chiuse e sbarrate, se non altro per l'abitudine di bloccarle che avevano da mezzo secolo. Ma non restava altro che provare. Con la spada sguainata, percorse velocemente, senza far rumore, il dedalo di stanze e corridoi bui o rischiarati dalla luce verde. Sapeva di essere vicino a Tecutli, quando un suono però lo bloccò. Lo riconobbe subito. Era un essere umano che tentava di urlare sotto un bavaglio. Veniva da un punto davanti a lui a sinistra. In quelle sale silenziose come la morte, anche il più piccolo suono arrivava lontano. Conan prese a sinistra seguendo il suono che seguitava a echeggiare. Alla fine si ritrovò ad assistere da un'arcata a una scena da brivido. Nella stanza era adagiata per terra una specie di griglia di ferro alla quale era legato un colosso. La testa era posata su uno stuolo di spuntoni di ferro, già macchiati di sangue nei punti in cui erano penetrati nel cuoio capelluto dell'uomo. Intorno alla fronte gli era stata legata una strana fascia di cuoio molto ingegnosa, messa appositamente in quel modo per non proteggere la testa dagli aculei. Tale fascia era collegata, mediante una catena sottile, a un congegno che sorreggeva un'enorme palla di ferro sospesa sopra il petto villoso del prigioniero. Finché questo riusciva a restare immobile, la palla di ferro rimaneva al suo posto. Ma non appena il dolore arrecato dalla puntura degli aculei di ferro gli faceva sollevare la testa, la palla si abbassava di qualche centimetro. Alla fine i muscoli doloranti del collo non avrebbero più sorretto la testa in quella posizione innaturale e questa sarebbe caduta nuovamente sugli spuntoni. Era ovvio che prima o poi la palla lo avrebbe schiacciato in una poltiglia lentamente e inesorabilmente. La vittima era imbavagliata e sopra il bavaglio i suoi grandi occhi neri bovini roteavano selvaggiamente verso l'uomo che stava sull'uscio, il quale restava in sbigottito silenzio. Il colosso alla tortura era Olmec, principe dei Tecutli. Sei. Gli occhi di Tascela. Perché mi hai portata in questa camera per medicarmi le gambe? Non potevi farlo nella sala del trono. Era seduta su un divano con la gamba ferita distesa e la donna Tecutli gliel'aveva appena fasciata con bende di seta. La spada macchiata di sangue di Valeria era posata accanto a lei sul divano. Mentre parlava, aggrottò la fronte. La donna aveva eseguito con efficienza il proprio compito in silenzio, ma a Valeria non piaceva né il tocco carezzevole delle sue dita magre né l'espressione dei suoi occhi. «Hanno portato tutti gli altri feriti nelle altre stanze», le rispose la donna nella morbida lingua Tecutli, che stranamente non suggeriva dolcezza né gentilezza in chi la parlava. Poco prima Valeria aveva visto questa stessa donna pugnalare un oxotalanca al petto e calpestare la fronte di un oxotalanco ferito. «Porteranno i corpi dei morti nelle catacombe, affinché i loro spiriti non fuggano nelle stanze e si rifugino qui». «Tu credi agli spiriti?» «So che il fantasma di Tolkemec abita alle catacombe», le rispose la donna con un tremito. «Una volta l'ho visto, mentre mi nascondevo in una cripta tra le ossa di una regina defunta. Mi è passato davanti sotto forma di un vecchio dalla barba canuta e dai capelli fluenti, con due occhi che sfolgoravano nel buio. Era Tolkemec. Da bambina l'ho visto mentre lo torturavano. Olmec ride, ma io so che il fantasma di Tolkemec infesta le catacombe. Dicono che sono i ratti a spolpare le ossa dei morti non appena vengono portati giù, ma anche i fantasmi si nutrono di carne. Chissà cosa...» La ragazza alzò immediatamente la testa mentre un'ombra si posava sul divano. Valeria sollevò il capo e vide Olmec che la guardava. Il principe si era ripulito dal sangue le mani, il torso e la barba, ma non aveva indossato la tunica e il suo grosso corpo liscio dalla pelle scura emanava un vigore bestiale. Nei profondi occhi neri ardeva una luce ancora più primitiva e un fremito correva nelle dita che accarezzavano la folta barba azzurra. Guardò severamente la donna e questa si alzò e lasciò silenziosamente la camera. Ma nel varcare la porta lanciò un'occhiata a Valeria, un'occhiata piena di cinico scherno e di volgare sarcasmo. «Ha fatto un lavoro tirato via! Fammi vedere!» criticò il principe, avvicinandosi al divano e chinandosi sulla fasciatura. Con una sveltezza sorprendente per uno della sua mole, le sottrasse la spada e la scagliò nella stanza. Poi la prese tra le sue braccia gigantesche. Malgrado la repentinità di quella mossa inaspettata, Valeria riuscì quasi a essere altrettanto veloce, perché mentre il colosso l'afferrava, prese in mano il pugnale e gli sferrò con veemenza un colpo alla gola. Più per fortuna che per abilità, l'uomo le bloccò il polso e allora cominciò una lotta selvaggia. Valeria si difendeva con i pugni, i piedi, le ginocchia, i denti e le unghie, con tutta la forza del suo magnifico corpo e tutta l'esperienza acquisita nel corpo a corpo in anni di vagabondaggi e battaglie per terra e per mare. ma non le valse a niente contro quella forza bruta. Dopo pochi secondi perse lo stiletto e non fu più in grado di infliggere colpi dolorosi al gigantesco avversario. La fiamma che ardeva nei suoi occhi non si era placata e quello sguardo la faceva infuriare, ma ancora di più la irritava quel sorrisetto sarcastico che gli vedeva stampato sulle labbra barbute. Quegli occhi e quel sorriso avevano tutto il crudele cinismo nascosto sotto la superficie di una razza sofisticata e corrotta, e per la prima volta in vita sua Valeria ebbe paura di un uomo. Combattere contro di lui era come lottare contro un'immane forza primitiva. Quelle braccia di ferro piegavano i suoi sforzi con una facilità che le metteva il panico. Pareva insensibile a qualunque dolore lei riuscisse a infliggergli. Soltanto una volta, quando gli piantò i denti bianchi nel polso fino a farlo sanguinare, vide a malapena una reazione. E lui reagì brutalmente, colpendola alla testa con tutta la mano aperta, facendole balenare le stelle davanti agli occhi e reclinare la testa sulle spalle. Nella lotta le si era strappata la camicia e il gigante, con cinica crudeltà, sfregò la barba ispida sui suoi seni nudi, arrossandole la pelle bianca e facendole emettere un grido di dolore e di oltraggiata furia. La sua resistenza frenetica era inutile. Era schiacciata contro il divano, disarmata e ansimante, e lo guardava con due occhi fiammeggianti come quelli di una tigre in trappola. Un attimo dopo il colosso la sollevò nelle braccia e la portò via di corsa dalla camera. Valeria non fece resistenza, ma il fuoco che ardeva nei suoi occhi dimostrava che il suo spirito almeno non era stato domato. Non aveva gridato. Sapeva che Conan era lontano e non le venne in mente che ci fosse qualcuno a Tecutli disposto a opporsi al proprio principe. Tuttavia si accorse che Olmec si muoveva fruttivamente, con la testa girata da una parte come per ascoltare i rumori di un inseguitore, e non tornava alla sala del trono. La condusse oltre una porta opposta a quella dalla quale era entrato, attraversò un'altra camera e cominciò a percorrere guardingo un corridoio. Sicché Valeria si convinse che temeva l'opposizione di qualcuno al rapimento. Allora gettò indietro la testa e lanciò un urlo con tutta la voce che aveva. Venne ricompensata da uno schiaffo che le fece quasi perdere i sensi e Olmec affrettò il passo mettendosi a correre. Ma il suo grido era stato udito e Valeria, girando la testa per il dolore, tra le lacrime e le stelle che in parte l'accecavano, vide Tecotl che zoppicava dietro loro. Olmec si voltò ringhiando e si mise la donna sotto il grosso braccio, in una posizione scomoda e certamente poco dignitosa, e la tenne ferma lì nonostante scalciasse e si divincolasse come una bambina. «Olmec, non puoi essere tanto carogna da fare questo! Quella è la donna di Conan! Ci ha aiutati a uccidere gli Xotalanchi, Senza dire una parola, Olmec sferrò un gigantesco pugno al guerriero e lo mandò disteso per terra. Abbassandosi, per nulla intralciato dai calci e dalle imprecazioni della prigioniera, sfilò dal fodero la spada di Tecotl e gliela piantò nel petto. Poi, dopo aver estratto la lama, fuggì per il corridoio. Non vide la faccia di una donna che lo spiava cautamente da dietro una tenda. Il viso sparì e subito dopo Tecotl riprese i sensi, si rimise in piedi barcollando completamente stordito e andò in cerca di Conan chiamando il suo nome. Olmec arrivò alla fine del corridoio e scese per una scala d'avorio. Attraversò diversi corridoi e alla fine si fermò in un'ampia stanza le cui porte erano schermate da pesanti tendaggi, con un'unica eccezione: una massiccia porta di bronzo simile alla porta dell'aquila del piano superiore. Olmec l'indicò e disse con soddisfazione: «Questa è una delle porte di Tecutli che danno sull'esterno. Per la prima volta dopo 50 anni non è sorvegliata. Ormai non ce n'è più bisogno, dal momento che Xotalanc non esiste più!» «Grazie a Conan e a me, razza di pazzo sanguinario! Cane traditore! Conan ti taglia la gola per questo!» Olmec non si dette pena di dirle che credeva Conan già morto, grazie all'ordine da lui impartito. Era troppo cinico per interessarsi ai pensieri e alle opinioni di lei. I suoi occhi ardenti la divoravano, indugiando avidi sulla generosa distesa di pelle bianca esposta al suo sguardo nei punti in cui la camicia e i pantaloni erano strappati. «Dimentica, Conan! È Olmec il signore di Xutol! Xotalanc non esiste più! Non ci saranno più combattimenti! passeremo la vita a bere e a fare l'amore! Ma prima di tutto beviamo!» Si mise seduta a un tavolo d'avorio e se la tirò sulle ginocchia, simile a un satiro dalla pelle scura con una bianca ninfa tra le braccia. Ignorando le proteste di lei, poco consone a una ninfa, la sorresse con il grosso braccio intorno alla vita, mentre con l'altro raggiungeva un boccale di vino posato sul tavolo. «Bevi!» le ordinò, avvicinandole con forza la coppa alle labbra, mentre la ragazza ritraeva la testa. Il liquore traboccò, pungendole le labbra e magnandole i seni nudi. «La tua ospite non gradisce il tuo vino, Olmec», disse una voce fredda e sarcastica. Olmec si irrigidì e nei suoi occhi ardenti apparve la paura. Lentamente girò la testa e vide Tascela che se ne stava appoggiata con aria incurante ai tendaggi della porta, con una mano sul fianco liscio. Valeria si dibatté nella stretta di ferro del colosso per riuscire a girarsi e quando incrociò gli occhi brucianti di Tascela avvertì un brivido per tutta la schiena. Nuove esperienze stavano travolgendo lo spirito orgoglioso di Valeria quella notte. Aveva appena imparato ad avere paura di un uomo e adesso sapeva che cosa voleva dire temere una donna. Olmec rimase immobile mentre un grigio pallore gli si diffondeva sotto la pelle scura. Tascela fece vedere la mano che fino a quel momento teneva nascosta dietro la schiena e stringeva una piccola coppa d'oro. «Temevo che il tuo vino non le sarebbe piaciuto, Olmec. Così ne ho portato un po' del mio. Lo portai con me molto tempo fa dalle rive del lago Zuad. Tu capisci a quale mi riferisco, vero Olmec?» La fronte di Olmec cominciò a imperlarsi improvvisamente di sudore. I suoi muscoli si rilassarono e Valeria, liberandosi dalla sua stretta, agguantò il tavolo e lo frappose fra loro due. Ma anche se la logica le suggeriva di schizzare via come un fulmine da quella camera, una strana malia la tratteneva lì a guardare irrigidita la scena. Tascela si portò davanti al principe con un'andatura sinuosa e ondeggiante, palesemente beffarda. La sua voce era soave e carezzevole, ma gli occhi lampeggiavano. Con le dita sottili giocherellò scherzosamente con la sua barba. «Sei un egoista, Olmec. Vorresti tenerti la nostra bella ospite tutta per te, pur sapendo che desideravo anch'io intrattenermi con lei. Che grave indelicatezza, Olmec!» Per un attimo le cadde la maschera, i suoi occhi fiammeggiarono, la faccia divenne torva e con una stupefacente dimostrazione di forza, con la mano gli strappò con violenza un ciuffo di barba. Quella manifestazione di forza innaturale non era più terrificante dell'esplosione momentanea della furia infernale che le divampava dentro sotto quella finta dolcezza. Olmec balzò in piedi con un ruggito e traballò come un orso, serrando e riaprendo convulsamente le poderose mani. «Sgualdrina!» La sua voce tonante echeggiò nella stanza. «Strega diavolessa! Tecutli avrebbe dovuto ucciderti 50 anni fa! Vai via! Ho già sopportato troppo da te! Questa donna dalla pelle bianca è mia! Vattene, prima che ti uccida!» La principessa rise e gli gettò in faccia i peli della barba rossi di sangue. Era una risata più spietata del suono della selce sull'acciaio. «Una volta non mi si parlava in questo modo, vero Olmec? Una volta, quando eri giovane, mi dicevi parole d'amore. Sì, un tempo eri il mio amante e poiché mi amavi dormivi tra le mie braccia sotto il loto incantato. E così hai messo nelle mie mani le catene che ti hanno incatenato. Lo sai che non puoi resistermi. Lo sai che non devo fare altro che guardarti negli occhi con il mistico potere che un sacerdote della Stigia mi insegnò tanto tempo fa. E tu sarai impotente. Ricordi quella notte sotto il loto nero che ondeggiava sopra di noi, mosso da una brezza non terrena? Non senti di nuovo la fragranza di quei profumi ultraterreni che si sollevavano come una nuvola e ti circondavano per imprigionarti? Non puoi lottare contro di me. Sei uno schiavo come lo sei stato quella notte. Come lo sarai finché avrai vita, Olmec di Xutol?» La sua voce si era mutata in un sussurro simile al mormorio di un ruscello che scorre nella notte stellata. Si chinò sul principe e gli posò sul petto massiccio le lunghe dita affusolate. Gli occhi del colosso divennero vitrei e le sue grosse mani ricaddero inerti sui fianchi. Con un sorriso perfidamente crudele, Tascela sollevò la coppa e gliela avvicinò alle labbra. «Bevi!» Come un automa, il principe le obbedì. Un secondo dopo, quello sguardo vitreo scomparve e i suoi occhi fiammeggiarono di furia, intendimento e terrore. Spalancò la bocca, ma non ne uscì alcun suono. Per un attimo vacillò sulle ginocchia che si piegavano, poi cadde come un sacco sul pavimento. Il tonfo destò Valeria dalla paralisi. La ragazza si girò e si lanciò verso la porta. Ma Tascela, con una rapidità che avrebbe fatto invidia ad una pantera, con un balzo felino le si parò davanti. Valeria la colpì con un pugno nel quale mise tutta la forza del suo agile corpo. Avrebbe steso un uomo sul pavimento. Ma Tascela, con una lieve torsione del busto, schivò il colpo e afferrò il polso della pirata. In un attimo imprigionò la mano sinistra di Valeria. Quindi, tenendole entrambi i polsi stretti con una mano, li legò con calma con una corda che prese dalla cintura. Valeria pensava di aver già assaporato l'ultima umiliazione per quella notte, ma la vergogna che aveva provato nel sentirsi in balia di Olmec non era nulla in confronto alle emozioni che ora le scuotevano il flessibile corpo. Valeria era sempre stata incline a disprezzare gli altri membri del proprio sesso e incontrare un'altra donna che poteva trattarla come una bambina la sconvolgeva completamente. Oppose appena resistenza quando Tascela la costrinse a sedersi su una sedia e, immobilizzandole i polsi tra le ginocchia, ve la legò. Calpestando con noncuranza Olmec, Tascela si diresse alla porta di bronzo, le tolse il catenaccio e la spalancò, rivelando un corridoio. «Lungo questo corridoio», disse, parlando alla sua prigioniera per la prima volta, «c'è una camera che anticamente veniva usata come una stanza delle torture. Quando ci ritirammo dentro dei cultri, portammo con noi gran parte degli strumenti, ma ce n'è uno troppo pesante da spostare. Funziona ancora perfettamente e credo che ora farà proprio al caso nostro». Negli occhi di Olmec si accese un lampo di intendimento e di terrore. Tascela tornò da lui, si chinò e lo afferrò per i capelli. «È paralizzato solo temporaneamente. Può sentire, pensare e provare emozioni. Sì, può sentire tutto». Con questa osservazione sinistra si avviò verso la porta, trascinando il gigante con una facilità che fece sgranare gli occhi alla pirata. Passò in corridoio e lo percorse senza esitazione e in un attimo scomparve con il prigioniero in una stanza, dal cui interno poco dopo giunse un clangore di ferro. Valeria imprecò a bassa voce e tentò vanamente di liberarsi dalle corde che le immobilizzavano le gambe contro la sedia, ma quelle sembravano indistruttibili. Poco dopo Tascela tornò sola. Dietro a lei uscivano dalla stanza gemiti soffocati. Chiuse la porta senza tirare il catenaccio. Tascela non era schiava delle abitudini, come non era schiava degli istinti e delle emozioni umane. Valeria restò seduta in silenzio, guardando la donna nelle cui esili mani, se ne rese conto adesso per la prima volta, posava il proprio destino. Tascela l'afferrò per i riccioli biondi, costringendola a reclinare la testa, e la guardò impassibile in faccia. Lo scintillio dei suoi occhi scuri, però, era molto eloquente. «Ti ho prescelta per un grande onore. Tu restituirai la giovinezza a Tascela. Oh, non guardarmi a quel modo. Ho l'aspetto di una ragazza, ma nelle mie vene si sta insinuando il gelo dell'imminente vecchiaia che ho già sentito centinaia di volte. Sono vecchia, talmente vecchia da non ricordare più la mia infanzia. Ma un tempo ero una fanciulla e un sacerdote stigiano si innamorò di me, rivelandomi il segreto dell'immortalità e dell'eterna giovinezza. In seguito morì. Avvelenato, dissero alcuni. Ma io vivevo nel mio palazzo lungo le rive del lago Zuad e il passare degli anni non mi sfiorava. Così, alla fine, un re della Stigia si invaghì di me e il mio popolo si ribellò e mi condusse in questa terra. Olmec mi chiamava principessa. Io non sono di sangue reale. Sono più grande di una principessa. Sono Tascela e sarà la tua splendida gioventù a restituirmi la giovinezza». La lingua di Valeria si era incollata al palato, avvertivo un mistero ancora più profondo della degenerazione che aveva sospettato. La donna sciolse i polsi dell'aquiloniana e la fece alzare in piedi. Non era la paura della forza erculea che si nascondeva nelle braccia della principessa a fare di Valeria una prigioniera inerme e tremante nelle sue mani. Ma erano gli occhi ipnotici, ardenti e terribili di Tascela. Sette. Colui che arriva dalle tenebre. Allora io sono un Kushita. Conan guardò l'uomo disteso sulla griglia di ferro. Che diavolo ci fai tu su quell'attrezzo? Dal bavaglio giunsero dei suoni incomprensibili. Allora Conan si chilò e glielo tolse, provocando uno spavento terribile al prigioniero, perché il suo intervento aveva fatto abbassare la palla di ferro quasi fino a sfiorargli il petto. Sta attento in nome di Set! E perché? Credi che mi importi qualcosa di quello che ti succederà? Mi dispiace soltanto di non avere il tempo di restare qui a guardare quella palla di ferro che ti schiaccia le budella. Purtroppo vado di corsa. Dov'è Valeria? Liberami e io ti dirò tutto. Prima parla. Mai. E va bene, la troverò da solo dopo averti visto ridotto in gelatina. Credo proprio di riuscire ad accelerare la cosa girandoti la punta della spada dentro all'orecchio. Aspetta! Me l'ha portata via Tascela! Io sono stato un semplice burattino nelle mani di Tascela! Di Tascela? Quella sporca! No, no! È anche peggio di quanto immagini! Tascela è vecchia, vecchia di secoli! Rinnova la propria vita e la giovinezza sacrificando belle donne giovani! Questa è una delle cause che hanno ridotto il clan in questo stato! Succhierà l'essenza vitale di Valeria e la trasporterà nel proprio corpo! Ed essa le darà nuova forza e bellezza! Le porte sono tutte chiuse? Certo, ma io conosco un modo per arrivare dentro Tecutli. Lo conosciamo soltanto io e Tascela, e lei crede me inoffensivo e te morto. Liberami e giuro che ti aiuterò a salvare la tua Valeria. Senza il mio aiuto non riuscirai mai ad entrare a Tecutli, perché se anche mi torturassi per farmi rivelare il segreto, non sapresti come servirtene. Lasciami andare e insieme prenderemo Tascela alla sprovvista e l'uccideremo prima che possa ricorrere alla sua magia. Prima che posi gli occhi su di noi! Ci penserà un coltello che le colpirà alle spalle! Avrei dovuto ucciderla in questo modo molto tempo fa, ma temevo che senza il suo aiuto gli Xotalanchi ci avrebbero sopraffatti! E anche a lei occorreva il mio aiuto! È questa l'unica ragione per cui io sono ancora vivo! Adesso non abbiamo più bisogno l'una dell'altra e uno dei due deve morire! Ti giuro che quando avremo ucciso quella strega, tu e Valeria sarete liberi di andarvene senza alcun impedimento! La mia gente mi obbedirà quando Tascela sarà morta! Conan si chinò sul principe e tagliò le corde che lo imprigionavano. E Olmec scivolò cautamente sotto la grande palla di ferro e si rialzò, scuotendo la testa taurina e mormorando delle imprecazioni mentre si toccava con le dita la nuca ferita. Messi spalla a spalla, i due uomini creavano un quadro formidabile di forza primitiva. Olmec era alto come Conan e più massiccio, ma il Tlazitlano aveva qualcosa di repellente, qualcosa di abissale e di mostruoso che contrastava con la compattezza scultorea del cimmero. Conan si era tolto la camicia strappata e macchiata di sangue e la massa muscolare si rivelava in tutta la sua potenza. Le grandi spalle erano larghe come quelle di Olmec, ma il taglio era più netto e l'enorme petto si inarcava verso la vita robusta con una curvatura impressionante che mancava al tronco panciuto di Olmec. Avrebbe potuto essere benissimo una statua di bronzo rappresentante la forza primitiva. La pelle di Olmec era più scura, ma non per via dell'esposizione al sole. Se Conan pareva uscito dall'alba dei tempi, Olmec era un'immagine cupa e slegata uscita dalle tenebre dei primordi del tempo. «Fammi strada e rimani davanti a me!» «Non mi fido di te più che di un toro preso per la coda!» Olmec lo precedette e lo guidò, massaggiandosi la barba strappata. Olmec non condusse nuovamente Conan alla porta di bronzo, supponendo che Tascela ovviamente l'avesse sbarrata, ma in una certa stanza al confine di Tecutli. «Questo segreto viene protetto da mezzo secolo! Neppure il nostro clan ne ha conoscenza e gli Xotalanchi non l'hanno mai scoperto!» Fu Tecutli in persona a costruire questa entrata segreta, uccidendo successivamente tutti gli schiavi che compirono il lavoro. Temeva di potersi ritrovare un giorno chiuso fuori dal proprio regno a causa di Tashela, la cui passione per lui si era mutata presto in odio. Ma Tashela scoprì il segreto e un giorno che lui tornava da un'incursione in territorio nemico, ella sbarrò la porta segreta e gli Xotalanchi lo presero e lo scuoiarono vivo. Una volta però, mentre la spiavo, l'ho vista entrare a Tecutli per questa strada e così ho scoperto il segreto. Poi Olmec pigiò un fregio dorato che sporgeva dal muro e un pannello si aprì verso l'interno, rivelando una scala d'avorio che portava di sopra. «Questa scala è costruita all'interno del muro, conduce alla torre sul tetto e da lì si dipartono altre scale che scendono alle varie camere. Affrettati!» «Dopo di te, camerata!» ribatté Conan con sarcasmo, agitando lo spadone, e Olmec, con un'alzata di spalle, salì sulla scala. Conan lo seguì immediatamente e la porta si richiuse alle loro spalle. Su, in alto, un grappolo di pietre di fuoco faceva sembrare la cupa scalinata l'antro di un drago. Seguitarono a salire fino a quando Conan calcolò che erano arrivati sopra il quarto piano. Poi sbucarono in una torre cilindrica, nel cui tetto a volta erano incastonate le pietre di fuoco che rischiaravano le scale. Attraverso le finestre dalle grate d'oro, chiuse da pannelli di cristallo infrangibile, le prime che vedeva Xucotl, Conan distinse alte tettoie, cupole e torri profilate minacciosamente contro le stelle. Aveva davanti i tetti di Xutol. Olmec non perse tempo a guardare dalle finestre. Scese di corsa una delle scale che si snodavano dalla torre e la rampa, quando ebbero fatti alcuni scalini, divenne uno stretto corridoio che si estendeva tortuosamente per diversi metri. Il corridoio terminava davanti una ripida scalinata che scendeva in basso. Arrivati lì, Olmec si fermò. Dal basso, soffocato ma inequivocabile, giungeva infatti un grido di donna che echeggiava di paura, di rabbia e di vergogna. E Conan riconobbe la voce di Valeria. In preda a un furioso impeto di collera, mentre si chiedeva quale pericolo poteva mai strappare un urlo simile all'indomita Valeria, Conan dimenticò Olmec. Travolgendo il principe nella corsa, si lanciò per le scale. Ma l'istinto lo fece girare di colpo immediatamente, nel momento esatto in cui Olmec sferrava un pugno micidiale come un maglio. Il colpo, potente e silenzioso, era diretto alla base del cranio di Conan. Il cimmero però si voltò in tempo per riceverlo al lato del collo anziché alla nuca. La botta avrebbe spezzato le vertebre a un uomo normale. Conan barcollò all'indietro, ma nel momento stesso in cui perdeva l'equilibrio lasciò cadere la spada, inutile a quella distanza ravvicinata, e afferrò il braccio teso di Olmec, trascinandolo con lui nella caduta. Rotolarono avvinghiati per le scale in una girandola di braccia, gambe e teste. E mentre ruzzolavano giù, le dita di ferro di Conan trovarono la gola taurina di Olmec, serrandola. Il collo e la spalla del barbaro si erano intorpiditi dopo il poderoso pugno sferrato da Olmec, nel quale il colosso aveva messo tutta la forza del suo avambraccio, del muscoloso tricipite e delle sue possenti spalle. Ma lo stordimento non mitigò la sua furia. Conan tenne la presa come un mastino, mentre rotolavano e battevano sulle scale, finché alla fine urtarono contro una porta d'avorio con tale violenza da spaccarla in due e farla schiantare in terra. Ma Olmec era già morto, perché quelle dita di ferro gli avevano spezzato il collo e levato la vita durante la caduta. Conan si alzò, scrollandosi dalle poderose spalle le schegge della porta e togliendosi la polvere e il sangue dagli occhi. Si trovava nella grande sala del trono. Oltre lui c'erano 15 persone all'interno. La prima che vide fu Valeria. Innanzi alla predella del trono era stato eretto uno strano altare nero, intorno al quale su candelieri d'oro avevano collocato 7 candele che esalavano densi riccioli di fumo verde dall'odore molesto. Le spirali di fumo si condensavano in vapore sotto la volta del soffitto, formando un arco sopra l'altare. Sull'altare avevano disteso Valeria completamente nuda, la cui pelle bianca risaltava in netto contrasto contro il marmo color ebano. Non era legata, era tutta distesa con le braccia protese sopra la testa. Al capo dell'altare era inginocchiato un giovane che le teneva saldamente i polsi, all'altra estremità era inginocchiata una donna che le serrava le caviglie. in quella stretta, Valeria non poteva alzarsi né muoversi. 11 uomini e donne di Tecutli erano inginocchiati in silenzio in semicerchio e seguivano la scena con occhi avidi e bramosi. Sul trono d'avorio si dondolava Tascela. Vasi bronzei di incenso, disposti tutti intorno a lei, l'avviluppavano nelle loro volute. Le spirali di fumo si arricciavano intorno alle sue membra nude, carezzandola con sapienti dita. La donna non riusciva a stare ferma, si dimenava e fremeva con sensuale abbandono, come se trovasse piacere nel contatto dell'avorio con la pelle liscia. Lo schianto della porta che crollava all'impatto con i due corpi avvinghiati non alterò quella scena. I sudditi inginocchiati si limitarono a lanciare una fredda occhiata al cadavere del loro principe e all'uomo che si rialzava tra le schegge della porta. Quindi tornarono a guardare cupidamente il corpo bianco che si contorceva sull'altare nero. Tascela guardò il cimero con insolenza e tornò ad adagiarsi languidamente sul trono, schernendolo con una risata. «Sgualdrina!» Conan vide rosso. Con i pugni serrati come martelli di ferro, venne avanti verso di lei. Al primo passo si udì un forte clangore e un oggetto d'acciaio gli addentò la gamba. Conan barcollò e quasi cadde, fermato nello slancio. I denti di una trappola di ferro gli avevano azzannato la gamba, conficcandosi saldamente in profondità. Soltanto i muscoli possenti del polpaccio avevano impedito che si spezzasse l'osso. Quella tagliola maledetta era uscita dal pavimento fiammeggiante senza preavviso. Solamente adesso vedeva le guide nascoste nel pavimento dove avevano camuffato perfettamente le ganasce. Sciocco! Credevi davvero che non avrei preso precauzioni contro un tuo possibile ritorno? Ogni porta di questa sala è dotata di trappole simili. Adesso rimani dove sei e guarda mentre compio il destino della tua bella amica. Dopo deciderò il tuo. La mano di Conan andò istintivamente al cinturone, ma solo per trovare il fodero della spada vuoto. L'aveva lasciata sulle scale. Il pugnale, invece, era rimasto nella foresta, dove il drago se l'era strappato dalla mascella. I denti d'acciaio della tagliola gli bruciavano la pelle come tizzoni roventi, ma il dolore non era nulla paragonato alla furia che gli incendiava l'anima. Era in trappola come un lupo. Se avesse avuto la spada, si sarebbe tagliato la gamba e si sarebbe trascinato sul pavimento pur di uccidere Tascela. Gli occhi di Valeria si voltarono verso di lui in un muto appello e l'impotenza a cui era costretto gli scatenò nel cervello rosse ondate di follia. Inginocchiandosi sulla gamba libera, cercò di infilare le dita tra i denti della trappola per spezzarli con la forza bruta. Dai polpastrelli fiottò sangue, ma le ganasce gli serravano il polpaccio in un semicerchio così perfettamente aderente da non lasciare il minimo spazio tra la carne martoriata e le zanne di ferro. La vista del corpo nudo di Valeria non fece altro che infiammare ulteriormente la sua rabbia. Tascela lo ignorò. Alzandosi languidamente dal trono, passò in rassegna tutti i suoi sudditi e chiese loro: «Dove sono Xamex, Lana, Tektacik?» «Non sono più tornati dalle catacombe, principessa! Come noi hanno portato i corpi dei morti alle cripte, ma non sono tornati! Forse li ha presi il fantasma di Tolkemek!» «Taci, stupido! Il fantasma è una leggenda!» Scese dal trono giocherellando con il suo stiletto dall'Elsa d'oro. Solamente all'inferno sarebbe stato possibile trovare occhi così ardenti. Si fermò accanto all'altare e parlò nel silenzio carico di tensione. «La tua vita mi renderà nuovamente giovane, donna bianca. Mi chinerò sul tuo petto e appoggerò le mie labbra alle tue. E lentamente, oh, lentamente, insinuerò questa lama nel tuo cuore affinché la tua vita, lasciando il corpo che si irrigidisce, entri nel mio, facendomi rifiorire di giovinezza e di vita eterna.» Con estrema lentezza, come un serpente che si inarca verso la propria vittima, Tascela si chinò tra le volute di fumo, avvicinandosi sempre più alla donna, adesso immobile, che fissava i suoi occhi scintillanti. Occhi che diventavano più grandi e più profondi, risplendendo tra il fumo vorticoso come due lune nere. I sudditi in ginocchio giunsero le mani e trattennero il respiro, trepitando d'attesa per il momento culminante del rito. L'unico suono che si sentiva era l'ansimare di Conan, che lottava con tutte le proprie forze per liberare la gamba dalla trappola. Tutti gli occhi erano incollati all'altare e alla bianca figura che vi giaceva. Neanche il boato di un tuono avrebbe potuto rompere l'incantesimo. Eppure fu un grido sommesso a far muovere la scena e a creare panico tutto intorno. Un grido sommesso, ma tale da far drizzare i capelli. Tutti si voltarono, guardarono e videro. Nella cavità della porta alla sinistra del trono era incorniciata una figura da incubo. Era un uomo con una massa incolta e aggrovigliata di capelli canuti e la barba bianca e sporca che gli scendeva sul petto. Degli stracci gli coprivano appena il corpo scheletrico, lasciando scoperte le membra seminude che parevano finte. La pelle non era quella di un normale essere umano, sembrava ricoperta di squame, come se avesse vissuto a lungo in condizioni non adatte alla vita umana. E non c'era niente di umano negli occhi che fiammeggiavano sotto il groviglio dei capelli bianchi. Erano due grandi sfere biancastre scintillanti dallo sguardo fisso, luminoso, senza la minima parvenza di razionalità o di equilibrio. La bocca si aprì, ma ne uscirono soltanto balbettii incomprensibili. «Tolkemec!» mormorò Tascela livida in viso mentre gli altri si rannicchiavano sul pavimento in preda a un indicibile orrore. «Non è un mito, non è un fantasma! Perset! Hai vissuto 12 anni nell'oscurità! 12 anni tra le ossa dei morti! Con quale cibo ti sei nutrito? Quale folla parodia di vita hai vissuto nelle tenebre della notte eterna? Ora capisco perché Xamec, Slanat e Tacik non sono più tornati dalle catacombe e mai lo faranno. Ma perché hai aspettato così tanto a colpire? Cercavi forse qualcosa nelle cisterne? Qualche arma segreta che vi sapevi nascosta? E l'hai trovata alla fine?» Un orrendo balbettio fu l'unica risposta di Tolkemec, mentre balzava nella stanza con un lungo salto che gli fece superare la trappola segreta situata davanti alla porta. Per caso, forse, o perché aveva una vaga reminiscenza delle usanze di Xucotl. Non era matto nel senso comune del termine. Aveva vissuto segregato dall'umanità talmente a lungo che ormai non si poteva più definire umano. Soltanto un filo intatto di memoria, cristallizzatosi in odio e desiderio di vendetta, lo aveva tenuto legato a quell'umanità dal quale era stato tagliato fuori, facendolo aggirare vicino a coloro che odiava. Soltanto quell'esile cordone gli aveva impedito di correre e brancolare per sempre negli oscuri corridoi di quel regno sotterraneo che aveva scoperto molto tempo prima. «Tu cercavi qualcosa e l'hai trovata! Non hai dimenticato la faida! Dopo tutti questi anni vissuti nell'oscurità, tu la ricordi ancora!» Perché nella mano scheletrica di Tolkemec ondeggiava ora una strana bacchetta color giada, alla cui estremità luccicava un bulbo cremisi a forma di melagrana. La donna si spostò di colpo, non appena vide che lo lanciava verso di lei come se fosse una sfera, e dalla melagrana sgorgò una fiammata rossa. Mancò Tascela, ma prese la donna che teneva strette le caviglie di Valeria, conficcandosi tra le sue scapole. Con un crepitio secco, il raggio di fuoco le riuscì lampeggiando dal petto e colpì l'altare nero, schizzando scintille azzurre. La donna cadde di fianco, avvizzendo e polverizzandosi come una mummia prima ancora di toccare il pavimento. Valeria rotolò dall'altra parte dell'altare e si mosse carponi verso il muro opposto, perché nella sala del trono del defunto Olmec era scoppiato l'inferno. L'uomo che tratteneva Valeria per i polsi fu il successivo a morire. Tentò di correre, ma prima di aver fatto 5 passi, Tolkemec, con un'agilità sbalorditiva per quel fragile corpo, si spostò in una posizione che fece ritrovare l'uomo tra lui e l'altare. Il fascio di fuoco rosso schizzò nuovamente e il Tecutli rotolò esanime sul pavimento, mentre il raggio completava il suo corso con uno scoppio di scintille azzurre contro l'altare. E poi cominciò il massacro. Urlando come pazzi, cercarono tutti di uscire dalla sala, ammassandosi, urtandosi e cadendo. E in quella baraonda Tolkemec piroettava e saltellava seminando morte. Dalle porte non si poteva uscire, perché il loro metallo serviva, come i sostegni metallici dell'altare, a completare il circuito del potere infernale che si sprigionava dalla bacchetta stregata agitata dal vecchio. Quando vedeva un uomo o una donna posizionato tra lui e una porta o tra lui e l'altare, la vittima prescelta moriva all'istante. Non aveva bersagli in particolare. Colpiva come capitava, mentre gli stracci gli svolazzavano intorno alle braccia agitate e gli echi dei suoi farfugliamenti riempivano la sala superando le urla. Un guerriero, spinto dalla disperazione, gli corse incontro con il pugnale alzato, soltanto per cadere prima di colpire. Tutti gli altri invece sembravano una mandria impazzita che non pensava resistere e non aveva possibilità di scappare. L'ultimo Tecutli, a eccezione di Tascela, era caduto quando la principessa raggiunse il cimmero e la ragazza che si era rifugiata da lui. Tascela si chinò e toccò il pavimento, premendo un disegno impresso sulla mattonnella. Le ganasce di ferro lasciarono immediatamente la gamba sanguinante di Conan e tornarono dentro il pavimento. «Uccidilo se puoi! Non ho abbastanza potere per contrastarlo!» Con un grugnito Conan si mise davanti alle due donne, dimenticando la gamba martoriata nella bramosia del suo combattimento. Tolkemec stava venendo dritto verso di lui con due occhi folli, ma vedendo luccicare il pugnale nella mano di Conan, esitò. Il pugnale gli era stato messo nelle mani dalla stessa Tascela. E Conan cominciò così un macabro gioco, con Tolkemec che girava intorno al barbaro nella speranza di portarlo tra lui e l'altare o una porta di metallo, mentre Conan cercava di evitarlo e sferrava colpi con il pugnale. Le due donne assistevano col fiato sospeso. Non si udiva alcun suono, tranne il rapido trapestio dei piedi che si spostavano. Tolkemec aveva smesso di saltellare e piroettare. Si era reso conto che non aveva più di fronte quella gente che era morta strillando e scappando. Negli occhi del barbaro, in cui ardeva una fiamma primordiale, leggeva la sua stessa determinazione a uccidere. Si spostavano avanti e indietro, e quando l'uno si muoveva, anche l'altro lo faceva, come se fossero legati da fili invisibili. Ma Conan, nel frattempo, si stava avvicinando sempre di più all'avversario. I muscoli tesi delle cosce cominciavano a flettersi e a raccogliersi per l'assalto. Quando Valeria lanciò un urlo. Per un breve istante la porta di bronzo fu in linea con il corpo in movimento di Conan e il fascio rosso fuoriuscì dalla bacchetta, bruciacchiando il fianco di Conan mentre questo si girava e lanciava il suo coltello. Il vecchio Tolkemec cadde giù, stavolta ucciso veramente, con l'elsa della lama che seguitava a vibrare nel suo petto. Tascela fece un balzo, non verso Conan, ma verso la bacchetta, la quale scintillava sul pavimento come una cosa viva. Ma insieme a lei scattò anche Valeria, che aveva afferrato il pugnale di un morto, e la lama, piantata con tutta la forza dei muscoli della pirata, trapassò al torace la principessa di Tecutli, riuscendo di punta tra i suoi seni. Tascela lanciò un urlo e cadde morta, e Valeria la scansò con il tocco dello stivale. Dovevo farlo. Se volevo ancora avere rispetto di me stessa. Bene, finalmente la faida è finita. È stata una notte d'inferno. Dove tenevano il cibo questi qui? Io sono affamato. Prima devi fasciarti quella gamba. Valeria strappò una striscia di seta da una tenda e la legò intorno alla vita. Poi fece altre striscette più sottili e le avvolse sapientemente intorno al polpaccio ferito del barbaro. Posso camminare. Andiamocene. È l'alba fuori da questa città infernale. Ne ho abbastanza di Xucotl. È un bene che questa razza si sia sterminata da sola e non voglio neanche le loro gemme maledette. Potrebbero essere stregate. Ce ne sono abbastanza nel mondo, sia per me che per te, disse lei raddrizzando la schiena e camminando splendidamente retta davanti a lui. Negli occhi di Conan tornò a bruciare l'antica fiamma. E stavolta lei non oppose resistenza, quando la prese appassionatamente tra le braccia. «C'è molta strada fino alla costa», disse Valeria dopo un po', staccando le labbra da quelle di lui. «Che importa! Non c'è niente che possa resisterci! Metteremo piede sul ponte di una nave prima che gli stigiani aprano i porti per la stagione commerciale!» E allora tu ed io mostreremo al mondo che cosa significa saccheggiare! Fine. La locanda della tormenta è stata lieta di presentare Conan, Chiodi Rossi. Grazie per l'ascolto.